Pronto? Antò! Chi è che chi parla? David Parenzo! Oh, ciao David, come ma stai? Ma l'immortaccia, bene, sono qui con Giuseppe, volevamo farti un'intervistina al volo. Quando? Quando adesso, vuoi. Quando adesso. Vuoi? Adesso non si può perché sto aspettando che arrivino quelli del TG2. No, ma due secondi. Vabbè, facciamo due minuti adesso, quando arriva chiudi, chi se ne frega. Poi no, registrata. Mi sto vestì, guarda, prova a richiamare fra 10 minuti eventualmente. Antò, quando c'è l'intervista? Perché sta cosa ha visto di Tajani. Ma come sto vestì, prova a richiamare fra 10 minuti. Ma che stai nudo in casa, scusa, non ho capito. Ma fatteli cazzi tu, no, vaffanculo. Ti pare che uno stia... La zanzara. Tutto il resto è noia. No, non ho detto gioia. Di tutto questo parleremo con i nostri ospiti. Avremo Matteo Salvini, avremo Vittorio Felti, il professor Galli. Woo! David, quanto mi ami? Dillo a tutto il mondo, ah, tutta la vita. Mi fai girare i coglioni, scusa, ma come cazzo ti permetti? Ma io devo lavorare 30 anni per guadagnare quello che guadagni te in un anno di stronzate. Soffrire. Poveraccio sta prendendo il sole, la polizia su quegli scooter. Diablo dice Matteo, ma Pippi cocaina? No, Diablo, non Pippo cocaina, non ho mai sfiorato cocaina nella mia vita e sono contento di non averlo fatto. No, è possibilissimo. Guglielmo o Salvini, facci i bocchini. Matteo! È abbastanza chiaro che spesso nel meridione si soffre di un complesso di inferiorità. Io invece non penso che soffrano di un complesso di inferiorità, penso che siano inferiori. È quello che è, probabilmente si è rincoglionito del tutto e quindi voglio dire, sarà un caso umano, patologico. Mi meraviglia che sia ancora, come dire, a dirigere quel quotidiano. Se invece quel deficiente, ok, sponsorizzasse con il suo giornale una programmazione seria, importante, beh, potrebbe essere anche ben visto, perché ripeto, lui dalla stanza del suo quotidiano di merda manco sa che cos'è la disperazione, ma manco l'ha mai vista. Voi immaginate se quel coglione, perché così lo devo definire necessariamente, no, se fossimo stati noi e quindi se fosse partita da qui la pandemia. Voglio il permesso per andare a puttane e chiamare la zanzara. Ritorneremo, prima o dopo. Barisoni gay. Il collegamento dal bunker di via Monterosa, il sottoscritto ancora vivo e vegeto nonostante la Lombardia. Eccoci qui. Dal bunker del Mossad, dove ci sono notizie che mi arrivano molto gravi di quello che stai combinando, di quello che stai preparando per i prossimi giorni. Molto, molto gravi. In diretta dal bunker del Mossad, David Parenzo. Avanti tu. Buonasera, cari amici. Andate a quel paese. Grazie. Allora, io dico una cosa: mi sono arrivate delle notizie di una gravità assoluta. Di una gravità. La diffamazione. Totale. Sentiamo. Allora, la prima notizia. Sentiamo la diffamazione. Mentre leggo, e questo è serio, che un uomo ha tentato il suicidio, non so dove, alcuni l'hanno già fatto, a Catanzaro, giù di lì, perché praticamente non ha più i soldi per le bollette, il qui presente, il presente di Etere, naturalmente, Davide Parenzo, mi dicono, mi suggeriscono dall'alto, mi suggeriscono fonti autorevoli che abbia ordinato per sabato, cioè dopodomani, forse in onore del giorno della liberazione, della festa, una cena di pesce che si fa arrivare a casa sua, quartiere Prati, a Roma, direttamente da Anzio. Direttamente da Anzio. Sì, no, no, non posso smentire, cioè vorrei, perché in realtà è corretto. Ma io il quadro lo vorrei definire. Vorrei definire il quadro. Mentre, sabato sera, aspetta, detto, siccome dobbiamo stare chiusi a casa, che vabbè, cosa cazzo c'entra? Aspetta, meanwhile potresti andare tranquillamente al supermercato di fronte a comprarti il pesce in scatola. Invece no. Beh, però sai, per rivivere quei sapori e quell'esperienza che ho vissuto in un posto meraviglioso, mentre leggo che un uomo, ha tentato il suicidio, ma cosa vuol dire questo? Perché non hai i soldi per pagare le bollette. Ma mica gli ho tolto io, i soldi. Ma io non ho detto niente, io non ho detto la nulla. Disperazione, cosa c'entro qui io presente, con questa roba? Il qui presente, Davide Parenzo. Per sabato prossimo, è vero che fa circolare l'economia, i consumi, prossimo, eccetera. Questo per sabato, prossimo, quando cazzo è? Dopodomani. Per questo dopo sabato domani, qui, dopodomani, aprile, ha ordinato una sontuosa cena a base di pesce in uno dei ristoranti più rinomati di Anzio e si farà arrivare questa cena direttamente senza il vino, però. Senza il vino, perché il vino l'ho già messo io in frigo d'oggi. Valore, io posso immaginare fresco. Solamente questo. Il valore di questa cena. Ma adesso cosa ne sai? Credo tu, che sia vicino almeno ai 100 euro a capoccia. Almeno, da quello che so. Inoltre, mi riferiscono ancora varie fonti autorevoli. Ho capito che giri per il quartiere Prati a Roma. Quartiere Prati a Roma, senza guanti e senza mascherina. Vi dico solo questo. Senza guanti e mascherine, con la connessione che peraltro ormai non funziona più. Dunque ti toccherà tornare fra pochissimo nella redazione romana di Radio 24, perché la tua connessione ormai è completamente andata. Vedi? No, interviene il Mossad. Quando tu diffami, interviene il Mossad e blocca la comunicazione. Allora, vero che oggi ero... I guanti non li porto mai, perché mi porto la mucchina in... Incredibile, no, ragazzi, non funziona più sto cazzo di connessione. Si riconnetta quel coglione, perché ormai è impossibile. Cioè, ormai è impossibile. Non so come cazzo è possibile. Ha funzionato per un mese e mezzo, adesso non funziona più. Si riconnettesse quell'imbecille. Allora, Sgarbi, prima che torni Parenzo, Sgarbi, che se la prende con Ricciardi o con tutti quelli come me che ci rompono i coglioni sull'autunno. Basta con questa storia qua, non se ne può più. Non avete indovinato le cose prima, non ci avete azzeccato prima. Io spero che nemmeno adesso ci azzecchiate. Perché uno deve sentirsi dire da un virologo, da un esperto, sicuramente il virus tornerà in autunno, ci sarà una seconda ondata. Ma perché? Perché è tornato? Perché? Ho capito, ma se non ci hanno azzeccato prima nessuno, l'OMS, i virologi, per non illudere le persone. Ma scusa, che discorsi basta, fai? Silenzio, ipotesi per non facciano illudere silenzio, le persone. Non ci hanno azzeccato nemmeno lontanamente. Vuoi che la gente dica menzogne? Invece no, è un'operazione vera. Verità. Sgarbi. La cosa più maligna di tutte è l'indicazione intollerabile, che ribadisco, di scienziati che non hanno mostrato di dare nessuna certezza, uno dei quali, tale Ricciardi, ha detto in autunno è certo che tornerà il virus. Sia maledetto, lui è il virus. Sia maledetto lui e il virus. Ma no, vabbè, però, ma cosa mica c'entra lui? Perché non è certo nulla e non voglio che uno mi dica che dopo l'estate avrò ancora il virus. Io spero che il virus muoia e spero che abbia ragione quello scienziato israeliano che gli dà 70 giorni, mettiamo anche 90 di vita. Ho qualcosa da dire ai napoletani dopo, eh? Non possiamo vivere nell'incubo costante che limita tutte le riaperture di mascherine e guanti e di un virus sempre in agguato. Morirà, se ne andrà, è una speranza che deve essere fino in fondo perseguita, non l'opposto. Voglio quell'israeliano e non voglio Ricciardi. Ricciardi ha detto una cosa che non poteva dire. Vai, avanti tutta, Vittorio, torniamo, fra tra pochissimo torniamo. Vittorio, avanti tutta. Ma dove? Basta con questi uccelli del malaugurio ogni giorno a rompere i coglioni. Ma che dai, uccelli del malaugurio? Ma non è gente uccellacci, che si augura questo. Ma uccellacci, cosa dici? Uccellacci. Sei impazzito ormai. Sono uccellacci, sono uccellacci. Impazzito. Uno perché dovrebbe dire sicuramente tornerà quando non ci ha azzeccato prima? Tu spiegami il senso. Ma no, beh, mettere allerta, cioè dire mettere attenzione allerta, che ma non, dillo alle fino task a quando force, non no, ci sarà un vaccino, fino a quando ci sarà un vaccino e una cura, il rischio che ritorni con l'arrivo del generale inverno, sai che diceva in Russia si diceva il generale inverno, bellissimo. In Russia il generale inverno. Comportamenti che uno per scelta deve ritenere, nove magistrati in Valle d'Aosta l'hanno detto, leciti: camminare all'aria aperta, stare su una panchina da soli, andare al mare è un diritto inalienabile, lo dicono nove magistrati, nessuno può multarmi perché io cammino su una spiaggia, e stare all'aria aperta è meglio che stare in qualunque luogo chiuso. Un poveraccio sta prendendo il sole, la polizia su quegli scooter. Allora ragazzi, torniamo alla vicenda Feltri. No, ragazzi, c'è da dire una cosa a questi signori napoletani. Tristissima quella storia, perché non ha chiesto scusa. Risentiamo, no, assolutamente, anzi ha rilanciato come al solito suo grande rilancio del Feltri. Ma no, ma che uno, grande rilancio? Quando uno tu lo sai, scusa, tu sai benissimo cosa succede. Rilancio. Uno ha torto marcio, dovrebbe dire scusa, sai, invece lui grande rilancio. In queste cose, tu mi insegni, che uno il giorno dopo va all'attacco di nuovo. Ma no, deve stare zitto un giorno e dire ho sbagliato, però sta zitto una settimana, poi riprende. No, invece tu all'attacco. No, la questione mi riguarda, perché alcuni disgraziati siti partenopei, certo. No, aspetta. Ti hanno, un cazzo, ti ci metti ma anche posso tu. Posso dire certo. Sì, ma io non ho detto niente, dico solo certo. Alcuni certo, disgraziati chiaro, siti partenopei, alcuni disgraziati chiaro, siti partenopei hanno sostenuto che io avrei dato ragione a Feltri. È certo, quello dice certo. Lo dice certo. Ma non è certo. Non sai è come vero, quelli che hanno un tic, sai, sì, quelli che hanno un tic, dai, che ripetono sempre. Allora, certo, alcuni siti certo, napoletani che io nemmeno voglio, sì, pronunciare. E chissà come mai, chissà aspetta, come mai. Si vede che la tua immagine è quella. Sì, domanda. Molti siti napoletani certo, hanno scritto: Cruciani dà ragione a Feltri. Posso dirvi una cosa, cari amici? Non faccio nemmeno nome e cognome perché non mi interessa. Siete dei truffatori. Siete semplicemente dei truffatori. Non l'ho mai detto. Anzi, gliel'ho fatto dire io per primo quella roba là su cui vi state divertendo da giorni, perché altrimenti non avreste nulla, bravo, da scrivere. Complimenti, certo, che gliel'hai fatto dire. Ma c'eri anche tu. Complimenti, bravo. Cioè, ho solo cercato con Feltri una spiegazione. Dice: ma scusi, direttore, perché dice inferiori? Lui ha dato quella spiegazione economica, dicendo che economicamente sono inferiori. Sì. Punto e basta. Io ho detto: beh, su questo, diciamo, sulla situazione economica non si può parlare di inferiorità. Se volete vi spiego, ma siamo alla radio, non siamo al consesso di filosofia. Dunque avete rotto i coglioni. Cruciani, due punti. Feltri ha questo, torto. Beh, questo è quello che dico ufficialmente. Feltri ha torto sui napoletani. Chiaro? Chiaro? Punto e basta. Lo dici con un po' di ritardo di qualche giorno, quando ormai l'incendio ha bruciato la casa. Senti questa roba qua. Tu provi a sedare l'incendio, ma non ce la farai. Ti difenderemo però, con a buon diritto, con le nostre associazioni. Allora, un cretino, ti difenderemo anche se non lo meriti. Un cretino su un sito che non so come si chiama scrive: secondo Cruciani Feltri avrebbe ragione. A suo parere dire che i meridionali sono inferiori a libertà di espressione. A parte che sì, questo difendo il principio, assolutamente, libertà di espressione. Poi querelatelo, è libertà di espressione, ho tutto il diritto di dire una cosa del genere. Negli Stati Uniti sarebbe consentito. Insulto, non è. Allora mi permetto di seguire la sua logica. Per me Cruciani è inferiore, non a me, ma ad ogni uomo del sud. Va benissimo. È inferiore moralmente perché conduce una trasmissione tutta basata su scandali, polemiche, spazzatura. Questo è vero. È inferiore igienicamente perché ha i capelli sporchi. Sembra anche quasi. Sembra quasi che una vacca gli abbia cacato in testa. È inferiore sessualmente perché ha la classica faccia di chi è microdotato. Giuseppe, non ti offendere, sono solo opinioni e solo libertà di espressione, cari amici miei che avete scritto questa cosa. È vera su queste cose che avete scritto, vi dico subito, senza dire che cosa è vero, cosa non è vero. È vero uno, due, diciamo due cose, indovinate voi, due cose, forse una, due cose. E comunque sì, questa è libertà di espressione, certo, potete dire quello che volete, non mi interessa, non faccio nemmeno i vostri nomi e cognomi, non mi interessa. Ah, forse è vera l'ultima, che sono microdotato. Una strizzatina alle palle di Parenzo da parte del Turco gli farebbe solo che bene. Promo 24. IG, broker leader nel trading online, ha il piacere di invitarti all'appuntamento dell'anno in live streaming con uno dei più grandi trader al mondo, Larry Williams. Partecipa online il 9 maggio dalle 10 alle 15. Collegati alla diretta video per scoprire le regole d'oro del trading e come gestire al meglio i rischi e le opportunità sui mercati finanziari. Registrati su IG.com. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fare trading comporta dei rischi. La Zanzara. Zanzarosi, giornata difficile, eh? Chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 7171 701. Scoprirete che potrebbe anche andare peggio. It's Friday night. Sì, io vedo molto negativo. Come ha fatto a vederlo? Ma è... scusi. Le carte, no? Ho messo giù le carte. È normale, è normale. Mio nonno mi diceva sempre che gli ubriaconi, con gli ubriaconi non si ragiona. Bisogna direttamente picchiarli. Ma io credo che mio nonno, se sarebbe ancora tra di noi, per quanto riguarda il signor Vittorio Feltri, la penserebbe diversamente, perché gli farebbe anche schifo mettergli le mani addosso. Quindi, con la speranza che uno di quei grappini che lui abitualmente si fa gli vada storto, gli posso soltanto dedicare una frase del grande Edoardo, Edoardo De Filippo. Carissimo signor Vittorio Feltri, in agi conosciuto scurnacchiate, ma tu sei la schifezza, la schifezza, la schifezza, la schifezza, la scumma di tutto l'uomo, un autista napoletano. Allora ragazzi, tra le cose che ho letto oggi, poi torniamo a Sgarbone che è impazzito anche sulle, oltre che sulle spiagge, anche contro i 5 Stelle. E, tra le cose che ho letto oggi, vi lascio scegliere la cosa che vi piace di più. Tanto ormai è così, no? Cioè non c'è niente di vero. È solo quello che vi piace di più, solo quello che vi reca più dolore, oppure quello che vi soddisfa di più. Beh, non c'è un cazzo di vero. È stato creato in laboratorio, può essere. È stato creato per fare un complotto dei grandi potentati economici per imporre il vaccino. Ma sì, può essere, lo dice anche qualcuno. Cioè è stato, che ne so, si poteva fare di più all'inizio a gennaio. Ma sì, forse. E ormai è tutto valido. È tutta una grande zanzara il mondo, capito? L'Italia, il mondo è diventata tutta un'enorme zanzara. Per ora hai drammaticamente vinto. Allora, ti posso dire, allora vi lascio scegliere cosa vi piace di più tra queste notizie. La prima, pare che, secondo uno studio francese, pensate, 350 persone, la nicotina protegga dal coronavirus. Lo sai che me l'ha detto l'altro giorno pure, tanto per dire com'è incredibile, sì, il mondo. Poi l'OMS smentisce, ma la stessa OMS ha detto prima un sacco di cazzate. Dunque perché dovrebbe essere credibile? Ormai non c'è più niente di credibile dopo quello che è successo. È il nostro grande, incredibile trionfo. Te ne rendi conto? No, che è un trionfo. Ma si sa già, no, questo allora, è il caos la che nicotina, hai creato tu nel mondo. La nicotina protegge dal coronavirus. 350 persone, dice, chi fuma potrebbe essere più protetto. L'altro giorno me l'ha detto pure, ma non potrò fare. Non può, amico mio, ma è uno studio francese. Ma non è così, può perché essere, hai i polmoni può compromessi, affaticati, e quindi assolutamente. L'altro giorno me l'ha detto, questa. Ti posso dire, non posso fare il nome. L'altro giorno me l'ha detto il direttore generale di un ospedale. Ti giuro, il direttore generale di un ospedale. No, ma non dico nulla. Direttore generale di un ospedale mi ha detto: guarda, che chi fuma può essere anche in teoria protetto. Altra cosa. Dopo il virus, questo potrebbe essere vero, studio questa volta inglese, dopo il virus c'è un rischio di picco delle malattie mentali. Vabbè, noi siamo, diciamo, abituati al picco, vabbè, al picco delle malattie mentali, anche, diciamo, siamo vaccinati. Anche abbastanza vaccinati. Dunque, se scegli, scegli una notizia che ti piace tra questi. Intanto ragazzi, mi scrivono una tale Paola: cena di Anzio, che schifo, è vero? Cos'è? Che mi scrive: cena di Anzio, che schifo, è vero? Sulla notizia come contato, che schifo? Sulla ma tua è cena. Ottimo, è un posto. Ma come che schifo? Si permette? Non dico il nome del ristorante, fanno a domicilio. Ho diffuso, sono in crisi, l'odio per sociale. Cui... Ma no, ma non è odio, dovresti dire vicino aiuto delle piccole imprese. Voglio fare una cenetta sabato particolare. No, ma questa è indignata, il gusto del mare. No, che schifo la cena, non che schifo potendolo... con te, che schifo con te. Che, ma infatti non cena, come vado a fare il culo, io ceno con mia moglie a casa, che ti pare che ceni con questa. Oh, con che questa schifo, che schifo. schifo il fatto che ti sei fatto portare la cena. Dico. Ma che schifo. Ah, se lei non vuole farsi portare la cena, niente, non se la faccia portare. Ma cosa dice? È un problema mio. Ho detto, se hai diffuso una cosa, te l'ho confermata, è vero, il vino non lo porto perché ce l'ho già. Vabbè, a casa. Vai, vai, preparerò, vai. Per l'imposizione è uno stato autoritario alla Venezuela, alla Maduro, e infatti il progetto grillino è di ridurre tutti in povertà per portare 10 milioni di italiani al reddito di cittadinanza, per poterli dominare. È una misura pericolosa e dittatoriale. Posso dirti una cosa che ti farà abbastanza incazzare? Comunque, io so chi ti ha dato la notizia, e quell'infame avvocato che ti ha dato la notizia è lo stesso che mi ha detto: ah, bella idea, lo farò anch'io con la mia tillina. Non voglio lasciare dare altri indizi. Non voglio dare altri allora, indizi. Oggi, ma lo stesso avvocato che ha detto: lascia perdere. Allora, oggi in alcune edicole. Lascia perdere, che mi infastidisco. Allora, sì, lascia perdere. Alcune edicole al sud hanno affisso questo cartello. Questo in questa edicola da oggi, 23 aprile 2020, non è più in vendita il quotidiano Libero. Essendo meridionali inferiori, non siamo in grado di comprendere gli arguti articoli di questa tentata giornalistica, bellissimo, di questa testata giornalistica indipendente. Ci voglio scusare il direttore Feltri. Esatto, ma è legittimo, ironico, naturalmente. Straordinario. Sì, si De fanno un danno, si creano. Si creano Filippo, bellissimo. Altra polemica che ti posso dire è questa. Mi scrivono: oggi ho dato l'addio a mia madre. Ma che danno si creano? Aspetta. Ma oggi, scusa, a Napoli non lo vendono Libero. Ma dai, non lo so. Oggi ho dato l'addio a mia madre, funerali vietati, solo una benedizione alla presenza di papà, mio fratello e io fuori dal cimitero, tutto in nome del virus. Tutto giusto. Quando però ho saputo che il 25 aprile l'AMPI, Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, ha ottenuto la deroga per le loro cerimonie, mi sono amareggiato e anche incazzato. Ora tu dimmi se è normale in una situazione del genere che il Ministero degli Interni è una piccola cosa di cui alla fine non me ne frega un cazzo, e anzi uno dovrebbe essere libero di andare a depositare un mazzo di fiori dove vuole, in qualsiasi posto. Però è normale secondo te che uno non può fare il funerale, non può andare a farsi una passeggiata, invece è autorizzato addirittura dal Ministero ad andare a fare una cerimonia per il 25 aprile? Ti devi vergognare per questa cosa qui. Solo una ti devi vergognare. L'hai ispirata tu. Sicuro l'hai ispirata tu. Lamorgese. Dopodiché io metterò, come sai, metterò al balcone la bandiera italiana. Bracconeri mi ha mandato un messaggio. Ma come si fa a far commentare a Bracconeri il 25 aprile? Come si fa? No, mi ha mandato un messaggio su questo. Senti. Beppe, se stasera non parlate di questa cosa che hanno fatto per il 25 aprile, che gli AMPI possono festeggiare il 25 aprile, ci hanno messo un'ora queste pezzi di merda, quando per far uscire un disabile o un autistico ci hanno messo 3 settimane e l'hanno tenuti dentro casa. Questo è un governo di merda, uno stato di merda. Se non dici questo, ti giuro, guarda, non te parlo più. Signor Bracconeri, cioè tu Bracconeri, passi le meline di Bracconeri. Tu sei la casella, il tuo modo di fare giornalismo è sei una casetta della posta, la cassetta della posta, dove lui ti indirizza il tuo audio e tu lo pubblichi. Questo sei. Questo sempre è il tuo modo di fare giornalismo. Ma lo facciamo io sempre. Sono qui solo per dire che è una vergogna questo sistema. Solo per dirti che è una vergogna. Sei una cassetta della posta, dove uno arriva, mette la sua lettera indignata e tu la pubblichi e poi passi a un'altra telefonata. È una vergogna. Comunque, ti una posso vergogna dire una cosa? Che l'idea ieri di Freccero, quando si è collegato con noi, di fare il grande reality su Feltri a Napoli, cioè prelevare a forza Feltri dalla sede di Libero, portarlo, imbavagliarlo, ti ricordi di sera? No? Imbavagliarlo, sì, così mi pare abbia detto. Poi va rafforzata dopo, e portarlo a Napoli e poi annunciare. Sì, e lasciarlo, c'era un megafono che annuncia giorni prima tutta la città, domani arriverà in città Vittorio Feltri, no? Sai come quello, donne, è arrivato l'arrotino, donne, domani arriva Vittorio Feltri in tutti i quartieri della città. Il giorno dopo arriva con questo elicottero militare, fammi sentire l'elicottero scortato, senti l'elicottero. Poi viene ecco Feltri, ecco Feltri che arriva a Napoli. Feltri a Napoli, già prigioniero, gli viene messo un paracaduto, sì, prigioniero degli autori della RAI, naturalmente sull'elicottero gli autori, ci sono le telecamere, gli autori, la fiction che diventa realtà. il paracadute naturalmente che funziona, naturalmente. Si lancia il direttore Felti con il paracadute, che naturalmente ha una telecamera anche in soggettiva che deve inquadrare la paura, naturalmente, del direttore. Il direttore viene direttamente catapultato su Scampia per cominciare, senza un soldo, senza una lira, soltanto con i suoi vestiti. E naturalmente ha uno zaino con dentro tutti i numeri di Libero. Dentro lo zaino ci sono tutti i numeri di Libero dedicati naturalmente a Napoli. E vengono naturalmente tipo helicopter money, tipo Milton Friedman naturalmente. L'elicottero comincia a distribuire naturalmente su tutta la città tutti i numeri di Libero. Bellissimo! Ecco, helicopter money, stile Friedman naturalmente. La Rai ha bocciato l'idea naturalmente. Non hanno naturalmente la concezione di che cosa sia la televisione, naturalmente. Liberato da Napoli, attenzione, fermi tutti, liberato da Napoli. Perché attenzione, vi aspettate qualcosa di grave? No, da chi? No, perché ho sentito prima la persona che diceva liberato, attenzione, da Napoli. Che vuoi dire, liberato, dimmi. Chiariamo una cosa, che noi napoletani siamo bravi, attenzione, al di là di essere folcloristici. Ma tu ce l'hai con Feltri o no? Perché ha detto che i meridionali sono inferiori. Ce l'hai con Feltri o no? Ma io ad averla con Feltri, diciamo che vorrei usare l'indifferenza, ma in alcuni casi uno non può evitare a odiare una persona del genere. Ma cioè l'odi, per quello che ha detto l'odi, sostanzialmente, l'odi. Ma no, diciamo la verità. Fermola, l'odi hai detto, dai, l'odi, fermo. Promo 24. Eolo porta internet a banda ultralarga anche alle imprese della provincia italiana. Eolo Azienda è la soluzione di connettività progettata su misura per la tua impresa, anche se si trova nei nostri comuni più piccoli. Con le offerte di Eolo Azienda hai il servizio attivo in soli 5 giorni, puoi navigare fino a 1 giga e ricevi sempre un servizio di assistenza immediata. Un team Eolo dedicato alla tua azienda, con una risposta telefonica garantita in 20 secondi. Per scoprire le offerte Eolo Azienda, chiama il numero verde 800 939 939. Oppure visita il sito azienda.eolo.it. La Zanzara. Pronto? Guarda, ma vattene a piangule, guarda, a te grindri dici, tu eri clandestino. C'è un po' di rabbia, però. Ma quale rabbia? Che cazzo di rabbia mi dica? Ma sulla Santanchè, si ricorda cosa ha detto? Certo. Ecco, che lo vuole ripetere? Lo vuole ripetere? Perché ha detto che meglio, piuttosto che andare con lei, farei un buco sul cuscino. Ma sulla Santanchè, piuttosto che andare con lei, farei un buco sul cuscino. Ma sulla Santanchè. Una vergogna. Una vergogna. Una vergogna. Chi era quel cretino di poc'anzi? You know I'll call, I won't just knock, I'll never make you chop, like a rock, I'll get the door, oh, after you, when things are breaking up, I'll be the glue, give me a hit, one or two, I swear to God, I'll never ever hit you. Grande Donald Trump, Donald ve l'ha detto quello che c'era da dire. E americani, lottate per la vostra libertà. E tu cui non ti conte, tu figli buttane conte, state a casa, se no tutto quello che... Ma che cosa abbiamo ottenuto? Che ci sono i numeri che parlano, pure che c'è un fischio moncazzo questa quarantena. Abbiamo avuto più morti di tutto il mondo, perché siete vergognosi, siete. E ancora cercate di tirare la corda e di prendere ancora per il culo. Ora le barriere, le misure, a mascherino, plexiglass a mare, e te ma rompere la minchia. Ora viene un cauro. Un cauro sbatte no cocco, noi ci den getto lo cervello. E vi fa sapere quella firma ricchiolo italiana, figli di bottana. Giovanino, il coglione palermitano, guarda, non ho neanche voglia di incazzarmi oggi perché sto lavorando stanco morto, lui sarà a casa a non fare un cazzo e a incazzarsi con quelli che lavorano. Comunque, è 3 anni che scrivi alla Zanzara, più o meno, Allora, prima doveva esserci la rivolta se non si votava i 5 Stelle. Poi doveva esserci la rivolta se facevano il governo questi con quelli. Poi doveva esserci la rivolta per l'altro motivo. Poi quando Salvini non si è incazzato con l'Europa. Poi adesso per il... Nino, non c'è un cazzo di rivolta, hai rotti i coglioni. Smettila di fare il guapo, il capopopolo, sei un coglione di merda. E poi devi parlare in italiano. Vuoi farti capire dagli italiani? Parla in italiano. Se no, tu e quella tua lingua di merda, ficcatela nel culo. Ah, alla fine mi sono incazzato, porca troia. We're from the top, straight to the bottom. You're so full, smoke me. I'll make you sick, this much I know. Ale da Milano, avanti tutta. Ale, dimmi, dimmi. Intanto ti segnalo, caro Parenzo, che un signore, un consigliere comunale della Lega, tale Francesco La Saponara, credo, ho visto, a Forlì, sì, ha scritto, sì, poi ha cancellato. Sì. Naturalmente, se anziani partigiani, più sono anziani e meglio è, ed altri esponenti dell'ANPI vogliono radunarsi per celebrare nonostante il virus, perché fermarli? Anzi, andrebbero incoraggiati a farlo. Ed è giusto che celebrino spalla a spalla con i propri compagni, ovviamente. Poi, se dovessero... la morte, praticamente. Sì, certamente. Ovviamente, poi, se dovessero ammalarsi, dispiacerebbe molto a tutti. Ma è un rischio che dobbiamo assolutamente correre. Ne va del bene della nostra gente. Cioè, sostanzialmente, questo signore. Tu muto. No, ma io muto. Sto dicendo che è un cretino questo qua. Sto dicendo che è un cretino. Nel denunciarlo. Ma sto dicendo. Senza la forza che in genere hai, io ti assicuro che hai uno staff legale che con a buon diritto ti abbiamo messo a disposizione. Non devi avere paura di dire che questo signore della Lega è un infame quando augura la morte a questi partigiani. Ma o diglielo, a quelli dell'ANPI. Diglielo tu, ma che vuoi e da me? Tu sei in silenzio su questa cosa, non ho capito perché. Ma non di sono che in cosa silenzio. Hai paura? Ma sto dicendo hai che è un paura coglione perché vivi questo in Lombardia qua. E la Lega governa la Lombardia. Di che cosa hai paura? Io non io ti non capisco. Ho paura di nulla. Sto dicendo ci che vuole questa... il coraggio ah. della denuncia sto delle cose. Sto dicendo che questo è un cretino. Lo ma devi cosa ti dire devo dire a voce di più? Alta. Ma lo non sto devi dicendo. Dirlo fuori onda. Lo devi dire in diretta. Lo devi dire questo. Sei incredibile. Ma in diretta pazzesco, sto dicendo che è un cretino. Pazzesco. E non cita il caso e l'episodio. Ale, niente Ale, lui. Ale da Milano, dai. Ale da solo Milano. Feltri. Buonasera, Cruciani. Dimmi Ale, dimmi. Ascolta, Cruciani, intanto io volevo intervenire su quelle che ha detto Feltri per Meridionali. Sì, Feltri, dimmi. Allora, intanto c'è da dire, da sottolineare che il pensiero di Feltri è pari uguale ai leghisti alla Lega. Ma non è vero, ma anche questa è una cazzata. Io, per esempio, per farti un esempio, ma non me ne frega un cazzo, ieri Salvini oggi ha detto che Feltri ha detto una boiata, una cretinata, una stronzata, non mi ricordo. Ma chi se ne frega? Provo a fare un ragionamento. Come si suol dire, no? Il lupo perde il pelo ma non i vizi. È un noto proverbio insomma, che descrive esattamente. Ma che vuoi tu, Ale? Non ho capito Feltri. Che cosa vuoi. Spiegami. No, volevo dire che la Lega, Feltri... Ma la Lega altri... prende un sacco di voti al sud. Che dici? Ha sì, cambiato tutto. Volevo arrivare a questo. Perché loro hanno... Prima che arrivassimo noi immigranti... Ah. Insomma, e tu che sei? Marocchino, tunisino, che sei? Tunisino, insultavano ai meridionali e poi siamo arrivati noi, cosa hanno fatto? Hanno cambiato il gioco e usando i migranti per immigrati. Prendere Francesco i da Firenze, vabbè, mi rotto il cazzo, dai, roba vecchia. Siamo in pieno coronavirus, ma certo che lo elimina. Francesco uno da Firenze, denuncia vabbè. Una cosa gravissima e lui lo elimina. Francesco da Firenze, avanti tutta, dai. Sì, senti, io mi chiedo com'è possibile che la gente prenda ancora così sul serio quel rincoglionito di Feltri, veramente, giorni a discutere di quello che dice. Ma quello un dirige vecchio... un quotidiano, quello dirige ma un quotidiano, mentre tu, mentre tu probabilmente non sei in grado manco di dirigere il foglietto del tuo condominio. Quale dirige un quotidiano? Meraviglioso, dirige un quotidiano, è stupenda. Non dirige un quotidiano, va bene. Ma che è un quotidiano? Quello ha fatto la storia del giornalismo italiano. A parte che i quotidiani di poterli comprare in edicola e io non ho mai trovato in edicola che vendesse Libero, quindi di che cosa stiamo parlando? Dai, poi dirige che cosa? Va in televisione a spararla grossa perché poi gli deve fare un po' di cacciare e questo, dai, ma di che cosa stiamo parlando? Per voi esiste solamente il quotidiano, quello perfettino, quello che fa i titoli perfettini, eccetera. Esistono perfettino. Tante tipologie, vai in Inghilterra e vedi che ci sono tante tipologie. Ma non fare il cosmopolita, certo, che non sai un cazzo. Quale vai in Inghilterra? Che in Inghilterra. Cazzo ne fai tu? Di vai in Inghilterra, vai in Inghilterra. Dai, vedi il giornalismo popolare che sparano a zero sì, sull'universo mondo. Se tu non ci sei mai andato, sono cazzi tuoi. Dai, dimmi. Ma tu quando ci sei andato? Ma dai, non ti preoccupare, vai avanti. Dai, che non esci mai dal quartiere tuo. Ma sì, non esco mai perché sto qui prigioniero della radio. Diciamo che ad esempio The Spectator, che è stato diretto all'epoca da Boris Johnson, altro che spara i nomi a caso che gliel'ha detto il maestro d'inglese dei figli. Senti quest'altro. Volevo dire questa cosa qui, Parenzo, a proposito, ascolta pure tu che magari impari qualche cosa. Visto che in questi giorni vi stavate chiedendo come mai il contagio non si ferma in Lombardia, visto che Parenzo è giornalista d'inchiesta, facesse una bella inchiestina su questo. Qual è la regione in cui ci sono più aziende aperte in deroga grazie alla regola del silenzio assenso nella richiesta alle prefetture? La Lombardia. Qual è la regione in cui ci sono le aziende che hanno cambiato più codice Ateco? Ma perché qui si vuole lavorare, amico mio, perché qui si vuole lavorare, mica non fare un cazzo. Cruciani, tu sei un povero terroncello, tu sarai sicuramente un dipendente pubblico a Firenze. Che allora, lì non fare un cazzo. Io sono una partita IVA e lavoro da freelance. Mi dispiace per te che in questo momento sei in mezzo alla merda. Perché il tuo maestro è Feltri e quindi d'altronde. Ma che ne so, io ho sparato a caso. Ma non è che ho sparato a caso quello che fai. Che ne so quello che fai. Il tuo maestro è Sgarbi e infatti e spari altrettante cazzate come Sgarbi. Vabbè, allora hai finito. Volevo dire questa cosa. La colpa delle morti è degli industriali. La colpa delle morti è degli industriali. Stai dando ragione a questo, Parenzo. Stai dando una telefonata. Perché non fai una bella telefonata al presidente di Confindustria Lombardia, che in un'intervista ha detto che secondo lui la causa del contagio è che nella Bergamasca e nel Bresciano ci sono molti allevamenti e quindi è possibile non credo che l'abbia detto. Ma hai rotto già il cazzo. Adelio dalla Monza. No, Terroncello, se me lo dici non mi offendo. Adelio da Monza, Brianza, vai, Adelio. Dimmi. Salvatore, provincia di Salerno, avanti tutta, vai. Pronto? Dimmi, Salvatore. Cruciani. Dimmi. Allora, ti volevo dire la questione di Feltri. Sì. Secondo me è un idiota chi lo invita in queste trasmissioni. Adesso c'è anche il divieto e spunta fuori di Salvatore della provincia di Salerno. Non si può invitare Feltri in trasmissione. Ma andate a fare in culo. Chiaro, andate. Allora, dovete avere in testa che c'è la libertà. La libertà. Ma non deve sparare cazzate. Ma se ne assume le responsabilità, ma c'è la libertà. I discorsi. Sì. Se fossimo in America, nessuno se lo filerebbe per queste cose qui. Se dicesse che cazzo ne so, gli abitanti dell'Ohio sono dei bovari, nessuno direbbe un cazzo. Ma no, sì, allora, ma non no. Questa indignazione popolare con le edicole che non funk. I think that in Ohio, all the people. I think that in Ohio State all the people are very very fat and disgusting. I think this. Ci sarà sicuramente un direttore locale che I think that in Texas all the people altrimenti parlate voi, io vi ascolto. Salvatore, hai rotto il cazzo, dimmi. Ok, Cruciani, mettici un po' di scotch. Dai, dimmi. Ti volevo dire non è che uno non lo può invitare nelle trasmissioni, però un vecchietto del genere, che secondo me si fa due o tre cicchetti o qualcosa in più prima di andare in trasmissione, e poi spara delle cazzate enormi. Allora, non si può invitare Feltri, è ubriaco, eccetera. Ragazzi, vi abbiamo fatto risentire 40.000 volte quella frase detta da noi, frase detta da Giordano, quello che ha detto, quello che ha spiegato. Vi siete attaccati giustamente perché siete lì nel protone d'esecuzione, spesso lo facciamo anche noi, frase. Bruciani. I meridionali sono inferiori e a Napoli sta succedendo l'inferno. Credo che ci siano cose più interessanti in cui Napoli, pensare, più non importanti, Napoli, non una non frase, Napoli, ma quella è cabaret. In Sicilia, in cabaret, si chiama cabaret, chiamasi cabaret, spettacolo, Cruciani, teatro, spettacolo, tu sei un'altra sì, testa può di darsi, cazzo, può darsi. Sei amico del vecchietto, rimbambito. Sono amico del vecchietto, non rimbambito però, vecchietto può darsi, ma rimbambito ti assicuro che arrivare alla sua età, con quella testa, io firmerei qui. Se io devo arrivare dove devo Feltri, firmare? In queste condizioni, come Feltri preferisco non arrivarci. Ma che cazzo dici, vai, fermo. La Zanzara. Fa parliamo di cose sensate, per favore. Cruciani, parliamo di cose sensate, per favore. Sono momenti importanti per il paese. Parliamo di cose importanti, per favore. Sciopero dei taxi, fanculo, chiamo Uber. Quando segna Ramsey, sparisce uno youtuber. Ti tiro in mezzo un bangla che vuol vendermi una rosa. La noce è peligrosa, Milano sushi e coca. La noce è peligrosa, sei una puppa peligrosa. La noce è peligrosa, sexy outfit tutto rosa. La noce è peligrosa, non sto in piedi ma sto in posa. La noce è peligrosa, storta sì ma favolosa. Andiamo pure. Adoro, adoro, adoro la zanzara. Adoro. Andiamo pure. Adoro. Che ne pensi di questa trasmissione? Io non ascolto mai la zanzara, non mi interessa assolutamente niente. E poi paga sempre Pantalone. Ma e c'è Barisoni? Amo quanto mi ami, dillo a tutto il mondo, tutta la vita. I carabinieri a quel testa di cazzo dei piastrellistra gli potevano chiedere quantomeno il badge o quantomeno un documento dove c'era scritto infermiere, no? Esiste, c'è, come ci chiedono i documenti, dice, ah sei infermiere? Ok, mi fa vedere qualcosa che attesti questa cosa. Quindi hanno sbagliato pure i carabinieri, mi dispiace. A Crucia, sto sentendo il podcast di ieri, ma Parenzo è ignorantissimo. Le forze dell'ordine possono chiedere le generalità, non i documenti. Nessuno è obbligato per legge a portarsi dietro i documenti, a meno che non stia guidando e ci vuole la patente. Ignorante! Omar, io però voglio raccontare di quella volta che io e te ci siamo ritrovati faccia a faccia con due che ce lo succhiavano. Una a te e una a me in Spagna. Scegli tu, stai facendo fare una pompa alla una. Minchia, io arrivo lì e... Uè, tu sei Omar, mi fai te? E io, sì. Vabbè, dai, tira fuori il cazzo, fatelo succhiare a questo. Io, vabbè, ma... Qua c'avevo le valigie in mano. È normale, è normale. Più tardi ragazzi, più tardi su queste frequenze radiofoniche il grande Omar Galanti. Parenzo, Omar, tu conosci Omar Galanti per caso? No. Amico mio, praticamente dei piselli più grandi esistenti in Italia, ti posso dire, cioè nel ma mondo. Ma perché dovrei, non capisco perché dovrei conoscere questo signore simpatico, anche per carità, ma qual è il suo talento? Beh, non capisco, diciamo perché che dovrei conoscere. Che ha fatto felici tante persone, tante donne innanzitutto, dunque molto più felici di quante magari ne hai fatte felici te, per cui già questo diciamo lo rende una persona gradevole. Ma non sono in alcuna competizione con questo qui, quindi non ho idea. Io conoscevo Omar Monastier che è un grande direttore dei giornali del gruppo L'Espresso, ma che c'è, del gruppo Repubblica, del gruppo Gedi, ma in comune Omar solo il nome Monastier. Galanti non l'ho mai sentito. Poi conoscevo un deputato, un senatore che una volta era di Rifondazione Comunista, che si chiama Severino Galante, sì, che era un deputato di Rifondazione Comunista. Galante. Esatto. No, tu mi hai chiesto, io di questi qua non le conosco. Questo nome che hai fatto non l'ho mai sentito. Benissimo. Allora ti faccio sentire invece il sindaco. E non ho neanche molto da chiederti, se da chiedergli qualora tu lo volessi intervistare. Anzi, non ho neanche nulla che mi interessa sapere. Cioè, di questa persona non mi interessa sapere niente, nulla, zero, meno di zero. Nulla. Allora. Posso? Sì, dire così? Assolutamente. Sono posso, allora, una carrellata di pareri su Vittorio Feltri. Partiamo con il sindaco di Lucera Tutolo, perché è molto, molto. È forse quello più pesante uomo del sud. Feltri ha detto i meridionali sono inferiori, anche se poi ha specificato, ha chiarito, eccetera. No, voglio dire a uno che mi ha scritto su, non so manco chi è, uno che mi ha scritto sui canali social dicendo, contestando la mia cosa che ho detto prima, cioè che Feltri è uno dei, diciamo, dei padri, non dico dei padri, ma insomma ha fatto la storia del giornalismo italiano, questo ho detto, che la cosa però è difficilmente confutabile. Cioè uno può dire anche chi ha fatto la storia del giornalismo italiano può dire cazzate, cioè non c'è dubbio, cioè, certo, per cui che sicuro, però abbia sicuro, fatto sicuro, la storia del giornalismo italiano, su questo non ci piove, amico mio, per cui di cosa stai parlando? Non sai un cazzo e parli. Vittorio Feltri, contestabile per tutto quello che dice, ha fatto la storia del giornalismo italiano. Questo è scritto nei libri, per cui mettiti l'anima in pace su questo, contestalo per altre cose, contestami per altre cose, ma non su questo, non su questo, perché questa roba qui non si può contestare. Dopodiché, ripeto, anche i mostri sacri possono dire delle minchiate, possono dire delle corbellerie, certo, e vero, punto e basta, cioè non è molto difficile. Vai, tutolo su Feltri. Se fossimo stati noi, e quindi se fosse partito da qui la pandemia, cioè avete idea di cosa saremmo noi oggi? Cioè noi non saremmo i terroni, noi non saremmo praticamente quelli che... Noi oggi saremmo forse peggio, il peggio, della schifezza, della merda probabilmente, per una merda umana, come quel signore là che, ricoprendo un ruolo importante, cioè quello di dare della informazione su un quotidiano nazionale, si permette un giorno sì e un altro pure di prendere a pesci in faccia una parte importante, numericamente importante, della nostra nazione. Vai avanti, avanti con tutto, avanti, avanti. C'è tutto il mezzogiorno per lui, noi siamo una merda, noi siamo dei parassiti, noi siamo dei... non lo so cos'è che siamo, insomma, per questo signore qua, però... È quello che è, probabilmente si è rincoglionito del tutto e quindi, voglio dire, sarà un caso umano, patologico. Mi meraviglia che sia ancora, come dire, a dirigere quel quotidiano. E soprattutto, vedete, sapete cos'è che mi meraviglia? Che quei quotidiani si vendono ancora qui, perché da Roma in giù, di quei quotidiani là, se non se ne vendesse manco uno, probabilmente, il signorino, anche da rincoglionito, capirebbe che probabilmente manco se lo può permettere. Per lui noi siamo meno della merda, perché la merda, diciamo, per lui praticamente probabilmente è una cosa che se la schiacci poi ti cambi la scarpa perché se lo può permettere e non la vedi più. A noi invece ci deve vedere davanti, perché ahimè non ci può ammazzare, non ci possono ammazzare, ma se potessero farlo vi posso garantire che a questo punto devo pensare che probabilmente pure lo farebbero. Perché vedete, siamo noi quegli stronzi dei meridionali, a detta di quel coglione che si piscia sotto di Feltri, che praticamente siamo quasi, come dire, no, un problema, un fastidio. Allora, nell'ordine, l'amico Tutolo ha detto merda umana, caso umano, patologico. Un coglione che si piscia sotto. Ora, mamma mia, no, però voglio dirvi una cosa, ragazzi. Tutolo è un idolo per me, è un idolo assoluto. Però c'è una cosa: secondo voi, tra i due, cioè tra Feltri che ha detto i meridionali sono inferiori, dicendo poi mi riferivo all'economia e tutto, secondo voi, e questo qua, alla fine, cioè chi è più insultante secondo voi? No, ma puoi fare una scelta tranquillamente, no, Davide. Ma non, puoi è, un fare sondaggio, ma non è un sondaggio, dai, sono due posizioni estreme che invece hanno Pippo bisogno in questa fase di lasciare il passo a riflessioni Pippo più pacate. Allora, intanto non so dove hai preso questa roba qua che Feltri è uno dei grandi del giornalismo italiano. Ma no, uno dei grandi, ho detto che ha fatto la storia, è diversa la cosa. Nella storia c'è anche Mussolini, Hitler, per farti un esempio, ma non voglio senza far paragone, certamente. No, ma nella storia c'è anche persone che magari non ti piacciono, che ne so, Cadorna. Ma la storia è storia. Ma certo che la storia, vabbè, non ha fatto. Allora, merda, razzista e fascista. Senti, ed è il motivo per cui lui non può dire che i terroni sono inferiori. Magari lo posso dire io e il mio portinaio. Forse Pippo. O il mio macellaio, ma non lui, perché è un razzista e un fascista. Allora, va bene, tu puoi dire quello che ti pare, razzista, fascista, testa di cazzo, pezzo di merda, eccetera. Ma tu, la cosa che non si può negare è che tu lo puoi dire anche a uno che è un mostro sacro. C'è gente che diceva fascista, razzista, stupratore di bambini al signor Montanelli, come sai. Dunque, di che parliamo? Ma scusami, ma magari Montanelli è un'altra roba. Ma no, ma non sto paragonando, rincoglionito, non sto paragonando i due. Sto dicendo che... No, è vero che Montanelli, anche in una fase, ma veniva dirlo, odiato, una certa fase, dai, a sinistra dai, era piuttosto bombardato. Così certo, passiamo anche un attimino oltre, restando alle seminato. Io che sono per metà bresciano e metà bergamasco, ti assicuro che i bergamaschi fanno molto più cagare, se dobbiamo generalizzare, dei terroni. Ma sicuro, che vuol dire? Anche tu, quello prima ha detto razzista, quello, e poi dice che i bergamaschi fanno più cagare dei terroni. Ma ti rendi conto? Cioè, prima attacca. Ma tu lo puoi, tu puoi dire, ma non è che puoi attaccare Feltri perché è razzista e fascista. Non possiamo dire Feltri, no. Ma sì, ma sai perché? Perché lui è davvero razzista e fascista. Invece tu che pensi che i bergamaschi siano così, siano peggio? No, no, io non lo penso, io lo so, sono per metà bergamasco. Lo io sai, non vuoi che tu lo sai. Il meridione è una grossa tragedia, ma stai in mezzo ai bergamaschi delle valli. Ma guarda, io adoro i bergamaschi, per cui non rompere i coglioni. Cioè, adoro. Vabbè, allora... Adoro i bergamaschi, proprio li adoro come fossero, sono sangue del mio sangue, li adoro molto più del tuo. Ma il sangue spesso il marchettone, no, ma... per i pullman militari, per i CMT, no, zero, ma assolutamente io adoro, perché ho un sacco di amici bergamaschi, un sacco di amici, perché e adoro il bergamasco, adoro la montagna di Bergamo, adoro Bergamo, mi piace tantissimo. Che cosa cazzo, la Brica, diceva che è la città più bella del mondo, ma ciò non toglie che sono insopportabili, che i meridionali sono molto, molto più charmato. Massimo, provincia di Vercelli, vai. Massimo, provincia di Vercelli. Buonasera. Avanti. Come si fa a dare degli inferiori della gente dove in quella zona da 100 anni si sono inventati 4 copyright fenomenali, mafia, Camorra, 'Ndrangheta e Sacra Corona Unita? Dalle parti di Feltri hanno provato a farne una, la mafia del Brento le hanno beccate tutti, per cui certo roba criminale, ma certamente geniale, eh? E non certo Bergamo, Bergamo le hanno prese ma tutti subito. Attaccalo due, sono impegnato a rispondere a un cretino. Ma che stupidaggine, che stupidaggine. Sono dice? Impegnato a rispondere a un cretino che pare che sia un musicista, no, che sostiene, aspetta, capire... Che mi ha risposto, aspetta un attimo, un secondo, mi ha risposto un signore sulla questione di Feltri. No, no, vai. Vabbè, sti cazzi, cioè, chi c'è qua? Chi c'era? Massimo, che cosa hai detto? Massimo, scusa, ero confuso. No, è una cosa un po' come dire ironica, però è che ci sta, secondo me. Si dà degli inferiori in una zona che si sono fatti un copyright da 100 anni di mafia, Camorra, 'Ndrangheta, Sacra Corona Unita. Nella mafia del Brenta, dalle parti di Feltri l'hanno fatta una volta, le hanno beccate tutti subito. Cioè, tu quindi... dici che alla fine non sono inferiori perché si sono inventati 4 grandi aziende. No, adesso quello è ironico, ovviamente, mi fa schifo tutto sta roba lì. Però dico, di sicuro la genialità da quelle parti, da me. Che lavorano e altre e non ultimo purtroppo anche quelle 4 organizzazioni che noi qui dal nord si sono inventate la mafia del Brenta che fa schifo anche quella, ma le hanno beccate tutti Massimo, subito ciao. Ma uno mi risponde: fare la storia è una cazzata, un luogo comune, fare cagare invece ciò che ha fatto Feltri, che tu esalti in modo tronfio e tracotante, questo sì che fa ridere, questo sì che è umorismo involontario. Vabbè, ma questo è un cretino. Fare la storia significa, se uno deve ricordare, diciamo, quello che è stato fatto nella storia del giornalismo italiano, che è una storia lunga, sicuramente un posto lo ha Feltri. Beh, un signore se questo che non ha fondato una se questo grande non lo quantità sa, di giornali. Sono cazzi sì, certo. Suoi. Io non esalto nessuno, poi. Non esalto nessuno. Per me ha detto una minchiata, per esempio. Ha detto una minchiata, punto. Ah, oggi lo ma dici. Ma che oggi? L'hai detto tu, ma non è che furore, possiamo... Il furore popolare ma, che lo sta massacrando. Ma tu lo sai cosa significa fare la radio? Ma quale furore popolare? Figa, che cazzo me ne frega del furore popolare a lisciare il pelo. Allora, a sentire... fermi tutti. Con noi il grande Red Ronnie. Buonasera, applausi. Come state? Beh, non c'è male, caro amico mio. Vecchio mio. L'ultima volta che ci siamo sentiti, credo, addirittura visti, eravamo in una situazione molto diversa. Oggi siamo in mezzo alla merda e però vabbè, andiamo avanti lo stesso. Hai paura di essere eravamo in un ottimo ristorante a Modena. Assolutamente. È vero, caro Red, hai paura di essere infettato oppure no? Cioè No, non hai paura. Assolutamente no. E hai detto l'altro giorno che non hai paura perché sei vegano. Che cosa cazzo vuol dire? Cosa vuol dire? Beh, devo dirti che la Daniela Martani, nei suoi eccessi, nel suo. Ha detto una cosa giusta. Ha detto una cosa abbastanza giusta. Cioè, io da quando sono diventato vegetariano nel 90 e vegano nel 95, io non mi amaro più. Cioè, dal 90 io non prendo influenza, non prendo farmaci, non prendo antibiotici. Sì, questo è notorio, sì. E quindi automaticamente tutto quello che ti dicono di questo virus è aspettiamo il vaccino. No, ma voglio rimanere su questa cosa. Scusa, ma il vaccino poi andiamo, te lo farai o aspetta, no, il vaccino, andiamo al vaccino, poi andiamo al vaccino, ci andiamo tra pochissimo. Però voglio dire, però tu dici che essendo vegano hai le difese immunitarie più forti? E certo, ma nessuno ti dice come prevenire. Allora, ma chi lo dimostra questo? Chi lo dice? Però scusa Red, quali scienziati lo dicono che il vegano è immune al vaccino. No, immune no, lui dice che ha le difese immunitarie più forti e dunque più difficile. Il vegano immune al vaccino è uno stimolo, semmai al virus, però... Al no, virus, scusa, sì, certo. No, però, no, lo dicono i fatti. Cioè le persone che hanno una sana alimentazione, chiaramente non si ammalano. Ma questo vale per tutto, però. Vale per tutte le malattie, non soltanto il virus, questo qui. Per tutte le malattie. Io non mi prendo influenza, non mi prendo raffreddori. Non ho sempre dal 90. Dunque, fosse per te, tu abiti vicino a Bologna, dove comunque dei casi ci sono stati, tu potresti uscire tranquillamente senza nulla. Cioè, potresti uscire quasi sicuramente, anche se il virus ti attraversa, avendo le difese immunitarie più forti, dici non avrai conseguenze. Sì. Sei abbastanza convinto di questo? Sono sereno, convinto, perché già in altre occasioni, quando c'erano quelle influenze pesantissime che la gente stava a letto una settimana con trattava di febbre, a me veniva una leggera emicrania e dicevo mi sono preso l'influenza, ed era una leggera emicrania, basta. Senti una cosa, ma perché secondo te la natura, questa non l'ho capita, si sta vendicando? Cioè questa qua è una vendetta della natura e pensi davvero che un problema, cioè che il problema sia la carne? Cioè la carne ci rende più deboli? No, perché qualcuno l'ha detto, magari lo pensa anche lui. Lo ha detto anche Brian May dei Queen, l'ex dei Queen eccetera, in cui ha detto chiaramente la carne ci ha portato il coronavirus. Cioè il fatto di mangiare carne, essere carnivori, ha portato il coronavirus o no? Ma sai, quando io feci una lunga conversazione con il professor Veronesi, che era perfettamente in linea con quello che io stavo dicendo, mi disse anche un'altra cosa. Io gli dissi, professore, ma io ho smesso anche il pesce. E lui mi ha detto, hai fatto bene, perché gli orsi polari cominciano a ammalarsi di tumore per un fatto di catena alimentare. Cioè il pesce che mangia l'orso polare a sua volta ha mandato un altro pesce, a sua volta ha mandato un altro pesce, quindi ogni volta che un animale mangia un altro animale, non solo prende anche le malattie di quell'altro animale. E dunque? Il mare, e di conseguenza noi mangiando carne, che è sempre più allevata in maniera allucinante, ormai ci sono solo tre mucche nei pascoli e le usano per fare gli spot pubblicitari, chiaramente ci ammaliamo perché sono tutti ammalati. È noto che i pulcini appena nati li bombano di antibiotici. E dunque, non ho capito, dunque mangiare carne, no, perché qualcuno fa un collegamento tra la carne, cioè il fatto di mangiare carne, tu l'unico collegamento che fai è sull'indebolimento del corpo, cioè più no, carne. No. Poi se vuoi andiamo sugli altri, ad esempio il bruciare le foreste amazzoniche, quindi togliere il polmone del mondo. Per cui la natura si sta riprendendo esatto. Qualcosa. Esatto, la grande vendetta della natura contro l'essere umano, sì, però questo qua è un dramma. Non è la vendetta, è che noi, allora, quando se tu vedi tutte le alluvioni, avvengono perché l'uomo ha deviato il corso di un fiume, o l'ha imbrigliato, l'ha coperto, eccetera, e il fiume si riprende il suo corso naturale. Dunque c'è qualcosa di positivo. C'è qualcosa di positivo in questo coronavirus? Questo coronavirus ha portato i delfini nella laguna di Venezia. Ieri ho visto una foto di Nuova Delhi dove prima non si vedeva niente, tutto smog, oggi vedi il cielo azzurro. Sì. Certo che ha portato qualcosa di positivo, perché ha fatto capire quanto l'uomo stia rovinando il pianeta. Sì, vabbè, capito, però uno non è che può dire la gente muore, uno dice porta qualcosa di positivo. L'uomo l'ha anche migliorato, l'intelligenza artificiale l'ha fatta l'uomo, quindi l'uomo lo ha migliorato anche il pianeta con l'intelligenza artificiale. L'uomo ha migliorato la sua vita facendo meno fatica. Io lavoravo in anche campagna, il pianeta. Comunque anche tu hai visto degli aspetti positivi, cioè il mondo ne uscirà più pulito. Ecco, questo dici, il mondo ne uscirà. Ma intanto ha cambiato tutto questa cosa qui, al di là del fatto cambierà tutto. Prima di tutto è stato un grande esperimento e hanno dimostrato che l'uomo è in grado di obbedire e subire qualsiasi cosa. Seconda cosa, quando uscirai avrai una voglia di stare insieme, di abbracciarti. Sono cambiati i valori. Ma che è tutta una merda, ma non possiamo dire. Quello che stiamo vivendo non porterà nulla di positivo. A me questa cosa qua che ci sarà qualcosa di positivo dopo non ci credo. Sarà inevitabilmente, ricordati che ci sarà inevitabilmente. Poi chiaramente poi sono tutto. Senti, ti voglio fare una domanda, ma sì. Tu, se si dovesse, so che sei molto scettico e non pensi che ci sarà, e forse pensi anche che non è giusto che ci sia questo grande business. Però, se ci dovesse essere, alcuni addirittura lo danno per vicino, tu te lo farai il vaccino o no? Assolutamente no. Ma per un motivo molto semplice, non serve nulla il vaccino contro il coronavirus. Qualcuno lo dice, non serve nulla. Ma come no, non serve nulla, scusa? Ma per un motivo, come non serve il vaccino contro l'influenza, tanto è vero che... Ma che scherzi, ma il vaccino contro il morbillo, rosolia, parotite, io ho fatto vaccinare tutti i miei figli, ma che siamo matti? Ma tu sei libero. Se ti arriva la varicella, no, ma dico, se ti arriva, se ti viene la varicella a 20 anni, è ancora più cattiva di quella che ci arrivava a noi quando eravamo ragazzini, quindi è meglio vaccinare tutti, no? Ho capito, però quello che ti voglio dire è questo. Allora, è stato dichiarato da esperti nel mondo, infatti su Google fai una ricerca, che chi ha fatto il vaccino contro l'influenza ha il 36% di probabilità in più di beccare il coronavirus. Cioè, secondo te il vaccino contro l'influenza ha creato un problema per quelli che si ammalano di coronavirus? Gli esperti, ma chi lo dice? Aspetta, adesso tu stai dicendo che il vaccino contro l'influenza, no, ma questo l'ho visto, ma l'ho vista, ma io non ci credo, però. Ma dipende chi lo scrive, chi lo dice, che ricerca è la ricerca che ha fatto Fusaro, il Bubù, chiunque può scrivere su Google qualunque minchiata. Anche Tarro l'ha dichiarato, l'altra serie, anche Tarro, e mi sembra che non sia un coglione, hai capito? Quindi il vaccino non serve a niente, l'ho dichiarato anche Montagnier, Luc Montagnier, uno che ha inventato l'HIV. Ma Tarro l'ha detto, Montagnier l'ha detto, non c'è dubbio, l'hanno detto. Poi altra cosa, scusa, tu fai il vaccino contro un virus che conosci, che è quello. Il virus dell'influenza cambia ogni anno. E infatti, ogni anno fanno lo aggiornano, perché lo isolano e lo aggiornano. Ma come fanno? Cosa aggiorni? Lo fai sul virus dell'anno precedente. Cioè, tu ci credi? Cioè, tu ci credi, caro Red, però io voglio capire una cosa. Tu credi, come alcuni su internet, non solo su internet, credono che questo virus sia stato messo in circolo apposta per poi vaccinarci? C'è una teoria, no? Che è questa. Alcuni hanno favorito la diffusione per poi guadagnarci sui vaccini. Ma quello è chiaro che la protezione guadagna, ma non è questo. No, c'è chi dice che è stato per il 5G, c'è chi dice che è stato per... Tu al 5G ci credi? Il 5G che fosse dannoso lo so da una vita. No, ma che è dannoso e le zone in cui hanno impiantato il 5G sono quelle più colpite dal coronavirus, ci credi a questa cosa? Diciamo che topologicamente è così, ma io non mi preoccupo di queste cose qui, perché all'inizio leggevo tutto. Poi sono stato talmente sommerso da tante teorie, comprese quelle sulle frequenze, ad esempio, che le grandi pandemie sono avvenute quando c'erano i cambiamenti di frequenza. La prima, la spagnola, quando... Cambiamenti di frequenza, cioè di cosa? Ah, le onde radio. Le onde radio. Dopodiché c'è stato il radar, quindi i telefonini. E adesso il 5G. Dunque, questo un po' ci credi. Ecco un altro. Sono coincidenze, un altro. Ma ragazzi, ma tu, a me va benissimo tutto, però non si può semplificare tutto come su Topolino, scusami, dai. Questa roba del 5G è smentita da tutta la comunità scientifica. Non troverai uno scienziato serio. Avevo fatto una domanda precisa a Red, che è questa, quella sulle multinazionali del vaccino, se hanno avuto qualche ruolo o no, questo voglio capire, secondo te. Allora, io a Cuba ero amico di una che ha fatto il vaccino per le meningite dei bambini, arrivai là quando c'era la SARS, e lei mi disse, guarda, non esiste, se, per fare un vaccino, se tu elimini tutti i tempi intermedi, al momento in cui metti il virus, ci vuole un anno e un mese, quindi non esiste che esce un vaccino della SARS, e il virus della SARS, e dopo solo 25 giorni hanno già venduto 80 milioni di scatole, 80 milioni di scatole di vaccino alla Spagna, solo alla Spagna. Vuol dire che hanno immesso un virus avendo già il vaccino a monte. E chi l'ha immesso il virus? Vabbè, applichiamolo alla situazione di adesso. Chi l'avrebbe immesso il virus, secondo te? Giuseppe, io non potrò mai sapere chi ha immesso il virus. Però secondo te non è nato naturalmente, non è una cosa naturale. Ma lo stanno già dicendo ormai tutti che non è nato naturalmente, ormai ci sono anche le scenette di quello. Anche i francesi lo dicono in realtà, addirittura i francesi lo dicono quasi ufficialmente. Ma lo dicono i veri esperti, allora partiamo intanto dei veri esperti. I veri esperti sono quelli che o hanno inventato qualcosa tipo Montagnier, tipo altre, oppure stanno lavorando. Cioè, l'esperto è in un laboratorio, se c'è un'emergenza... Cioè quelli che vanno in televisione adesso, i vari eccetera, tu non credi manco a uno di questi qua? Ma difatti non ne hanno beccata una. E l'Organizzazione Mondiale della Sanità, no? Come la definisci tu, Red? L'Organizzazione Mondiale della Sanità, come la definisci? Un posto di lobbistico? Vedo che litigano tra di loro. Stanno litigando tra di loro. Addirittura abbiamo avuto un rappresentante italiano dell'OMS, dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Smentito dall'OMS stesso. Ma dopo quanto tempo che andava in TV a pontificare? Un mese e mezzo. Non è che è stato smentito. Hanno detto non appartiene a noi, non puoi parlare a nome nostro. Cioè, a lavorare? No, nel senso, senti, tu credi, scusa, per concludere, Red, tu credi a un farmaco in questo periodo? Cioè, credi a un farmaco? Cioè, è possibile o no? Prima ti eri appassionato all'Avigan, poi si è dimostrato, insomma, un po' traballato. Ma no, è complottismo, perché guarda che vorrei ricordare al signor Parenzo che l'Avigan è stato adottato dall'Israele. Conosce lo Stato di Israele? È uno Stato ancora, no, il Giappone, le cose, ma tutt'altro. Tu credi a un farmaco? Credi a un farmaco, Red, o no? Cioè, se oggi tu ti ammatti... Certo che ci sono dei farmaci che per chi è malato servono, e come, porca puttana, anche le parine. Io ho pubblicato una chat di medici che parlavano di eparine, guarda caso un po' uscita l'eparina. Ognuno può avere un'opinione, ma per validare l'utilizzo di uno di questi farmaci ci sono dei protocolli. Cioè, non è che uno fa il copia e incolla da una conversazione di internet e dice io ho pubblicato questo. La comunità scientifica non ragiona così, capito? Lo dico a chi ci ascolta. E tu lo sai. La comunità scientifica si basa su altro, non su delle conversazioni di medici. Però scusami, Red, un'ultima cosa, ma secondo te voglio capire se ci stanno nascondendo qualcosa oppure no? Cioè, secondo te alla fine è come dice Tarro, che è una roba un po' ridicola, viviamo in uno stato di terrore imposto da qualcuno per una cosa che alla fine è poco più di un'influenza, oppure no? Ma sai, ogni tanto a me arrivano i numeri dei morti, e i numeri dei morti per coronavirus, anche se tutto viene addebitato a coronavirus ormai, sono inferiori a quelli dell'influenza dell'anno scorso. Mi arrivano sempre i numeri di morti, ma non è ancora questo, sono numeri. Poi vedremo i numeri, allora, certamente. Sono numeri che ti arrivano. Secondo te ci stanno tenendo in una sorta di prigione. Per quale motivo? Perché non sanno che cazzo fare? Il motivo non lo so, lo scopriremo forse nel futuro, però c'è un motivo per cui ci hanno messo in questa situazione. Ma ti rendi conto della situazione ridicola? Se noi viviamo in un regime di dittatura totale, con elicotteri che passano sopra di noi, che c'è uno da solo, che solo sulla spiaggia, atterra l'elicottero, cioè siamo a dei livelli... Poi c'è un altro elemento, quello può succedere, perché è successo anche questo, perché se tu dici una cosa lievemente diversa, e Red lo sa bene, altri lo sanno bene, ti rompono il culo e ti vogliono fare chiudere. Ciao Red, a presto, ciao, abbracci. Ciao. La Zanzara. Ho trovato quattro parole che riassumono la mia vita. La gente deve pagare. La gente deve pagare. E con il sangue. La gente deve pagare. La gente deve pagare. La gente deve pagare. La gente deve pagare. E con il sangue. La gente deve pagare. Pagare. La gente deve pagare. Pagare. La gente deve pagare. Pagare. La gente deve pagare. E con il sangue. La gente deve pagare. La gente deve pagare. Soffrire. La gente deve pagare. La gente deve pagare. E con il sangue. La gente deve pagare. Pagare. La gente deve pagare. Pagare. La gente deve pagare. Pagare. La gente deve pagare. E con il sangue. Pena di morte no, però chiudere e lasciare morire. Pena di morte no, però soffrire. Personalmente, se devo scegliere tra vivere a lungo senza farmi fare i pompini e farmi fare i pompini e morire di coronavirus, sai già cosa sceglierei, no, Crucia? Eh? Dai, non c'è bisogno di dirlo. Oh, c'ha pure ragione questo, eh? O no? Ragazzi, ci mancherebbe pure... cioè, no? Che non avesse ragione questo, ma tutta la vita, ragazzi. Ma come si fa a vivere? A campare senza, dai. Omar, io però voglio raccontare di quella che volta che io e te ci siamo ritrovati faccia a faccia con due che ce lo succhiavano. Ah. Una a te, una a me in Spagna. C'eri tu, stai facendo fare una pompa alla una. Minchia, io arrivo lì e tu sei Omar, mi fai te. E io sì. Vabbè, dai, tira fuori il cazzo, fatelo succhiare a questo. Vabbè, ma comunque c'avevo le valigie in mano. Signor Galanti. Allora, molte persone in queste ore, caro David, si sono scatenate, si stanno scatenando contro Vittorio Feltri, diciamo la verità. Prima abbiamo sentito Tutolo, vari napoletani, eccetera, eccetera, in giro per l'Italia, ma con tutte le ragioni del mondo, peraltro. Ognuno risponde a tono alle cose di Feltri, per carità. Libertà anche per loro, grande libertà, assolutamente. C'è un signore siciliano che si chiama, poi non sono solo i napoletani, perché in realtà Feltri si è riferito ai meridionali in generale, capito? Non ci sono in ballo in questo caso solo. Sì, sì, una categoria. Solo da Roma in giù. Da Roma in giù, sostanzialmente. Credo che questo Figuccia sia un consigliere regionale della Sicilia, Vincenzo Figuccia. Sentiamo anche la sua performance oggi, la sua performance. E allora, caro Feltri, avevo deciso di ignorarti perché la tua ignoranza è totale e assoluta. Avevo deciso che non era nemmeno utile dedicare neanche un secondo della mia vita alla tua esistenza indegna, perché le tue parole sono indegne. Però dopo quello che hai detto ieri sera, che i meridionali sono addirittura degli esseri inferiori, ma come ti permetti? Ascolta, ti dico una cosa, tu ritornerai nelle paludi, laddove mangiate solo polenta, in mezzo all'inquinamento e all'industrializzazione. Questo Figuccia, ripeto, è consigliere. Voi ditemi se non sono peggio coloro che attaccano Feltri rispetto alle parole che ha detto Feltri. Questo è consigliere. Ritornerete nell'industrializzazione, la polenta. Ma non si vergogna questo qua? Cioè, che la Sicilia è. Ma lasciamo perdere, dai. Sono due facce della stessa medaglia. Due facce? Noi abbiamo bisogno di un'Italia moderata, di un'Italia che un po' riflette, pensa. Vai a cagare. Che un'Italia costruttiva. Noi qua invece al meridione, in Sicilia, ritorneremo a vivere perché abbiamo il sole e una grande voglia di riprenderci e di lavorare. Caro Feltri, sei un indegno, te lo dovevo dire e te lo sto dicendo. Te lo dovevo dire e te lo sto dicendo, che cazzo vuol dire? E lo stai dicendo. Questo è consigliere regionale, che poi è consigliere regionale in Sicilia. No? Lasciamo perdere il discorso, va. Lasciamo perdere. Ma ce l'abbiamo pure il nostro amico Polimeni? Quello della, di Catanzaro, il mitico Polimeni in audio? Ce l'abbiamo o no? Ce l'abbiamo, vai con Polimeni. Quest'altro è un giornalista catanzarese, ancora contro Feltri, scatenato, senti. Sono arrabbiato perché sta accadendo qualcosa di incredibile. Se non lo fermiamo subito noi, questo è impazzito. È impazzito questo infame, questo personaggio squallido, questo uomo senza definizione, un farabutto che utilizza i mezzi di Mediaset per infangare il sud e infangare le persone per bene. Ci ha definito esseri inferiori. Questo uomo, chiamarlo uomo è niente, questo quacquara qua, questo lurido personaggio che si chiama Vittorio Feltri. Questo essere schifoso che prende i soldi dell'editoria italiana, che prende i soldi dallo Stato per essere mantenuto per quei quattro fogli di giornale. Infame tu e Giordano, quello che fa a Rete 4 la trasmissione, che ti ha dato la possibilità di offendere i meridionali e di offendere i calabresi. Disgraziati che non siete altro. Tu e quella famiglia che ti tiene in casa, che ti dovrebbe prendere a calci nel sedere. Vittorio Feltri, vergognati, sei la schifezza umana, sei una merda. Sei un indegno, te lo dovevo dire e te lo sto dicendo. Ah ragazzi, roba da pazzi, roba incredibile. Polimeni, c'è, dov'è che chiama sempre clima, Polimeni? Polimeni, dov'è Polimeni? Lo voglio qui, Polimeni, davanti a me. Agostino da Napoli, vai Agostino, vai. Luciani, era una volta che ci seguo per radio, era una volta che ci siamo. Bene. Volevo dire, Luciani, scusami, impremazionato, Feltri ha detto quello che ha detto. Non ha infranto un napoletano emozionato, reato. Incredibile. Napoletano, appunto, non ha, diciamolo che non ha infranto. Non c'è nessun reato, ma diciamolo, Agostino, perché qui non si tratta di reati, perché la gente fa le denunce, sempre con queste cartuccelle, con queste carte bollate, i tribunali. Ma di che parliamo? No, dai, su. Le denunce, però, ancora con le denunce. Ma in nome di chi le denunce? Magari un giornalista si sente offeso e denuncia. Può anche essere libero di dire un'espressione verso i settentrionali, magari per dire, però non lo dicono, magari un giornalista può dire è una giustizia divina, si sono meritati quelli che si sono meritati. Ma per però, carità, siamo, ma per libertà carità. Di espressione. Io non ma lo quale è libertà magari, di espressione? Magari diciamo, moralmente ha detto una diciamo questa cosa. Moralmente lo si può condannare, però siamo in libertà di opinione. Cioè, augurare a qualcuno la morte è una cosa gravissima, non c'è nessuna libertà di opinione. Augurare al nord di continuare in questa terribile situazione nel quale si trova. Mi sono espresso male. Uno, un giornalista meridionale, può esprimere una sua opinione su una cosa settentrionale. Ma non è un'opinione, non è un'opinione, è una stupidaggine, non è un'opinione. Quale opinione? Augurare la morte a qualcuno non è un'opinione. La morte no, ma infatti la morte no, quando no, uno dice la morte, no. È una situazione dispiacevole, cose del genere, ma uno sta dicendo la morte, non prendiamo nello specifico. Vabbè, mi ha rotto il cazzo, Doriano da Firenze, vai, Doriano, dimmi. Dimmi, senti, scusa, perché ti ascoltavo sul telefono, quindi non ti sento sulla radio. Dimmi, allora, dimmi. Ora, io non mi vorrei incazzare. Io ti ricordi, ti chiamai per il treno un paio di mesi fa che ero nel camminetto. Sì, vabbè. Insomma, aspetta un attimo, c'è quel patto di pazzo di Polimeni. Intanto buonasera a te, all'Italia. Buonasera all'Italia. Cosa buonasera? L'Italia e gli italiani, quelli interventi. Aspetta, Polimeni, non sento niente. Chi è Polimeni? Mettiti bene col telefono, se no non sento. Togli via voce, l'auricolare, cazzo. L'ho tolto, mi senti? Le basi. Allora dimmi, Polimeni, che cazzo hai detto a Feltri? Cosa hai detto? Delle cose terribili hai detto. No, cosa ho detto io? Cosa ha detto lui ai meridionali? Ma tu non sei i meridionali, intanto, non rappresenti nessuno. Allora, ascolta. Intanto, con il mio messaggio, ho fatto più ascolti di Mario Giordano. Ma chi con se quella ne frega? Cacata di trasmissione con 1.100.000 di visualizzazioni del mio video. Mario Giordano è schizzato, parla del sud, parla degli ultimi, dei disperati, eccetera. Volete raccontare solo i morti ammazzati del sud, volete raccontare la disperazione che non è così. Ma chi questa vuole terra, raccontare Polimeni? Chi vuole raccontare? Chi vuole Luciani, raccontare? Luciani, nessuno vuole raccontare niente a nessuno. Uno. Sei tu che hai sbroccato e stai dicendo le peggio cose contro Feltri, di' la verità. Io sono sbloccato e sto dicendo le peggio cose contro Feltri, ma questo continua a offendere con la complicità di zio Berlusconi. Dico, ma tu sai quanto prende dall'editoria? Quanto prende Feltri per libero? Prendeva 5 milioni e 400 mila euro. 5 milioni e 400 E che vuoi fare? Lo vuoi cacciare? Lo mantengo con le tasse, con i soldi dei contribuenti. Va a offendere il Sud Italia. Ma stai scherzando, Cruciani? Ma quale offendere il Sud? Ha detto una cosa sui meridionali. Che offesa? Tu non rappresenti il Sud. Però che prende i contributi. Io rappresento me stesso. Me stesso è quello che giornalmente faccio, raccontando una Calabria migliore di quella che voi definite. Ma chi se ne frega adesso della Calabria? Adesso non me ne frega niente della Calabria a me. Cioè, no, il punto non è questo. Gli hai detto le peggio cose. Prima abbiamo mandato in onda i tuoi audio, Polimeni. I soldi pubblici li prende. Voglio parlare un dovrebbe attimo restituire guarda, il modo per chiudere questa querella, un bel gesto, un appello che faccio agli amici di Libero, sarebbe quello di restituire tutti i soldi pubblici che hanno preso, i contributi pubblici che hanno preso, e darli al sud, alle famiglie bisognose, alle aziende, soprattutto alle piccole e medie aziende che al sud ci sono. Lui, come risarcimento, dovrebbe restituire i soldi. Ma stai dicendo i soldi una puttanata? Come no, i soldi che ha incassato, anche miei, anche dei meritori meridionali, i napoletani che hanno indirettamente contribuito a pagare Libero oggi possono essere risarciti da questo terribile affronto se Felti gli restituisce tutti. Cioè, non mi dire che tu ti sei sentito offeso. Adesso Polimeni si è sentito offeso da Vittorio Feltri. Dai. Senti, io rappresento in Calabria una trasmissione che si chiama Articolo 21. Che ma tu non rappresenti nessuno, rappresenti solo te stesso. Cioè, non è... come vuoi tu, rappresento me stesso. Come dici, rappresento me stesso. Mi chiamo Polimeni e penso. Non sono mantenuto dallo Stato perché vivo di aziende private. Vabbè, ma come lo consideri Feltri? Un coglione? Come lo consideri? Un ubriacone? Un imbecille? Come, un razzista? Io considero Feltri un fuori di testa. È un personaggio squallido. Ancora qualcuno gli dà spazio. E la cosa incredibile è che invitano anche il suo vice direttore nelle trasmissioni di punta della e politica. Allora, e qual è il problema? Tu sai cosa ho detto oggi? È uscito. Tutte le edicole del Sud Italia non venderanno Libero. Ma chi te l'ha detto? C'è qualche edicola. Altri se ne sbattono i coglioni. Qualche edicola. Peraltro, qualche fra poco. Qualche edicola. La tua io edicola, magari. Dovrei vendere un giornale in Calabria, in Sicilia, in Puglia, in Campania, in Basilicata, che offende i lettori che dovrebbero leggere questo giornale. Ma sei il primo a comprarlo, sicuramente. Poi sarai il primo. Non lo compro Libero. Ti posso dire una cosa? Io sia di Giordano che di Feltri, su alcuni punti e argomenti legati a quella che è la discussione generale del nostro territorio, in alcune cose condividevo alcuni passaggi. Ciao, adesso ha sbagliato Crucià, raccomandato boss dell'editoria pure tu. Ma chi? tu sei uno che è raccomandato, c'è rabbia. Questo è raccomandato anche voi a parlare in questa maniera. Ma devi questo è pazzo di parlare in questa maniera. C'è quale? Ma questo rabbia, è un imbecille. Ti hanno smascherato. Se io facessi la radio che fai tu, dicessi le cose che dici tu in televisione, arrivano carabinieri, pompieri, vigili del fuoco, polizia. Fatti una domanda e datti la risposta, però, perché fermo là. Ciao. Sei boss della radio. Promo 24. Sono tanti i settori in crisi a causa del coronavirus. Uno dei più colpiti è il turismo ed eventi, tra i più importanti motori dell'economia e della cultura italiana. I principali operatori del turismo chiedono a gran voce un fondo straordinario per fronteggiare la crisi. Le associazioni Astoi Confindustria Viaggi, FTO e importanti operatori del comparto hanno promosso il Manifesto del Turismo per l'Italia, che con l'hashtag Ripartiamo dall'Italia chiede il sostegno di tutti per la ripartenza del turismo. Operatori del settore e consumatori possono aderire al manifesto sulla piattaforma change.org. Salviamo il turismo, salviamo l'Italia. Info e aggiornamenti su ripartiamodallitalia.it. La Zanzara. Sei un indegno, te lo dovevo dire e te lo sto dicendo. Eccolo. A te! E mi faccio una prugnetta, mi faccio Crucià. Cosa? Pippe. Non potete neanche immaginare, cioè lui sale su un muro di scalata, fa la bandiera, si mette a cazzo duro, cioè si mette a cazzo duro prima, sale, fa la bandiera e si butta giù e poi chiava. Cioè, solo lui fa sta roba qua. Credo di poter dire che siamo forse due dei cinque al mondo che hanno sempre lavorato senza nessun aiuto, senza punture, senza menate. Quindi a noi il cazzo tira per davvero, non con la chimica. Dovevamo fare una scena in quattro con una donna e puntualmente non mi lasciavano mai spazio, no? A un certo punto gliel'ho puntato in culo a David Perry, si gira e mi fa: oh, che fai? E gli ho detto: oh, se non fai scopare la donna io ti scopo a te. Cazzo, ragazzi, Omar era veramente così e non è un gioco. Signor Omar Galanti. Lo stai facendo... attraverso questa antologia, sai che la parola antologia deriva dal greco, anzos logos, sarebbe raccolta fior da fiore, no? Sì. Antologia, una parola greca meravigliosa. Ecco, questa antologia che mi stai proponendo mi tratteggia un quadro drammatico di questo personaggio. Un quadro raccapricciante. Allora, ragazzi, alcuni edicolanti, come avete testé appreso, alcuni edicolanti hanno deciso al sud di non vendere più il quotidiano Libero dopo le affermazioni del signor Feltri. Allora, una di queste edicolanti si chiama Tiziana di nome ed è in Calabria. In Calabria io farei una piccola telefonatina, caro Parenzo, ci dobbiamo mettere d'accordo. Io faccio finta di essere la segreteria di Feltri, tu la segretaria sei... femmina, sì, sì, no, femmina, no, la segreteria, la segreteria, no, la segreteria di Feltri, no, non lo so fare, femmina, non lo so fare. Sì. E tu però devi fare Feltri, tu che preparati, vediamo se funziona, che devi un po' parlare con la signora, devi chiedere spiegazioni di questo affronto, wow, perché non vuole più vendere. Proviamo, vediamo. Vai, vai. Vediamo, vediamo cosa succede. Pronto? Sì, buonasera, segreteria dottor Feltri, un attimo solo. Segreteria dottor Feltri. Pronto? Sì, pronto. Sono Vittorio Feltri, il direttore del quotidiano Libero. Buonasera, dottore Feltri. Ma io ho visto una cosa, mi hanno segnalato, vergognosa, che avete tolto il mio quotidiano dall'edicola. Allora, io non l'ho tolto. Ma io dico che è una cosa vergognosa. Siete dei pelandroni, siete dei pelandroni. Posso parlare? Io non ho tolto il suo giornale. Però io penso una cosa, dottore Feltri. Io mi auguro che lei stia sempre bene, perché io non le auguro mai qualcosa di cattivo. Ma che cosa vuol dire? No, mi creda una cosa. Io sicuramente sono anche emozionata a parlare con lei. Ma quale emozionata? Io mi sono sfranto i coglioni di vedere che ci sono persone che tolgono il mio giornale solo perché ho detto una cosa normale. Allora, cioè che la gente tolto. Al sud non lavora. Non a me sembra tolto. Evidente che anche lei che ha risposto, se ha risposto vuol dire che non lavora, come diremmo noi al nord. Perché se no, uno io ha da c'ho fare, un cliente qui davanti a me. Ma se uno ha da fare. E in questo momento io sto lavorando, però mi sembra doveroso risponderle, sono una persona educata. È evidente che al sud questa cosa conferma la mia teoria che al sud non fa un cazzo nessuno, perché se io lavoro non devo rispondere al telefono. Lei si sta sbagliando, dottore Feltri, si sta sbagliando di grosso. Lei ha risposto al telefono e ha un cliente davanti, quindi è una questione cosa molto maleducata che lei ha fatto. E quindi sono anche maleducati. Io questo domani lo scriverò. Rispondono al telefono mentre hanno un cliente davanti. Certo, e quindi il sud perché noi è in maleducato. Questo momento diamo la possibilità alle tante persone di fare anche ordini per telefono e portiamo i libri a casa, dottore Feltri. Anche fuori dall'orario di lavoro, dottore Feltri. Ma io ho detto una cosa, ho detto che a questo punto è dimostrato che al sud non lavorano. Prenderò gli onori che vi sono dovuti nel momento in cui chiederete a gran voce scusa a tutte le persone che avete offeso. Avete offeso anche gente del nord, che sono nostri amici, che magari domani vi cureranno, dottore Feltri. Ma io dico, ma come urlano al sud? Ma perché la gente del sud deve urlare? Ma io lo trovo veramente incivile che uno debba urlare alla cornetta del telefono. Allora, lei già ha parlato in modo offensivo con me, che oltretutto mi dispiace dirle, ma che non si è... anche elegante e zelante con una signora. Ma io ho detto una cosa semplicissima, ho detto che se al sud non lavorano e la dimostrazione è stata che ho telefonato. E lei che cosa sta facendo? Lei sta curando i rapporti sociali. Ma lei sta rispondendo al telefono quando davanti ha un cliente, quindi certo, vuol dire che non sta lavorando. Che mi permette, io ho chiesto se potevo rispondere al telefono e poi urla e al sud lei. Urlano. Io domani titolerò al sud quando parlano al telefono telefono urlano. Io questo sì, è fattuale, mi pare. Sì, sì, io, fattuale, allora, io non sto urlando, però voglio essere molto chiara con lei. Secondo me lei una cosa sola deve fare, deve chiedere scusa agli italiani che ha offeso. Ma non chiedere scusa proprio a nessuno. Ma io sono libero. Mi dispiace, ma io devo servire il mio cliente. Arrivederci, torni a lavorare, bella... appunto, grazie, torni grazie. A lavorare, appunto, che non grazie. Si lavora mai. Risponde al telefono e quindi non lavora. Questo mi sembra abbastanza Senti, evidente. Adesso io siccome proverei a chiamare pure il sindaco di Lucero, il grande Tutolo, anche lui. Ma no, tu dici non ci casca, dici non ci casca. Ma no, ma è sveglio quello. Pronto? Pronto? Sì? Un attimo solo. Pronto? Chi è? Sono Vittorio Feltri. Buonasera. Ho letto e sentito delle dichiarazioni sconcertanti. Se mi fa la gentilezza di chiamare con un numero... Con un numero quale? Perché se il numero, io parlo, è il numero di Milano, è il numero della redazione di Milano. Se non conoscete numero, perché non fate un cazzo lì al sud, non ma, ecco, ma che cosa fa? Non fate vada, niente al sud e risponde con volgarità alte. Io ho chiesto solo di parlare e di rendermi conto e anche maleducati. Io scriverò domani sul quotidiano che siete tutti dei gran maleducati e la rimanderò a fare in culo perché dei gran maleducati. Che non lavorano alle 6 meno un quarto di pomeriggio quando noi a Milano stiamo ancora lavorando perché gente volgare e che minaccia al sud, gente volgare e che minaccia. Io domani lo scriverò sul quotidiano, domani scriverò su Libero che al sud non si lavora e non si fa un cazzo perché alle 6 meno 10 rispondono al telefono in modo insultante. No, non è in modo insultante, è in modo che lei merita. Anzi, se fosse qui davanti a me, glielo dico, non la manderei soltanto in culo, la prenderei a calci nel culo. Ma come si permette? Ma come si permette? Ma come se vada a lavorare lei? Vada a lavorare. È una trasmissione, però dai, veramente, sono, è una trasmissione. Sono io che ti costringo a queste cose. Sì, però dico, ma è una trasmissione davvero, però che secondo me non può durare una trasmissione così, perché dove si può, cioè qual è il prossimo step, il prossimo salto, qual è il ma prossimo perché passo? Perché gli è partita la brocca? Ma è una trasmissione perché gli è terribile. La al sindaco? Non lo so, perché ha sentito il nome Feltri. No, perché un po' all'inizio non ci credeva, voleva il numero, voleva avere il numero, poi a un certo punto quando Feltri è partito subito con all'attacco, quando subito ha detto lei non sta lavorando, non fate un cazzo, non sta lavorando, quello non c'ha più visto. Certo. Ha detto, ma allora è Feltri davvero questo? Sì, uno che risponde al telefono non lavora, ma scusa anche lì, ma se ti squilla il telefono è dopo che rispondi, no? Ma io quando faccio il giornale non rispondo mai al telefono. La gentilezza di chiamare con un numero conosciuto perché se il numero, io parlo, è il numero di Milano, è il numero della redazione di Milano, se non conoscete numero, perché non fate un cazzo lì al sud, non ma ecco, ma che cosa fa? Culo. Non fate niente al sud. È lì che è partito, capito? Quando ha sentito non fate un cazzo è partita la brocca. Roba incredibile, incredibile. Tutta colpa tua, non sono idee mie, tutte idee tue sono queste qua, tutte idee tue. No, questo veramente. Antonio da Roma. In alcun modo proprio. Antonio da Roma, dai. Io non so veramente quanto può durare questa trasmissione. Sì, dimmi, non, Antonio. Non so. Scusa, Giuseppe, guarda, ci siamo ultimamente. Non sento niente, amico mio. Ma cosa sì, aspettiamo? Sento, ma dimmi. Non vale la pena. Ci siamo lasciati ultimamente col fatto che mio padre è comunista, pare che è stato lui a rovinarmi l'esistenza, ma forse come tuo padre comunista ti ha rovinato l'esistenza, che vuol dire? No, non è stato lui, è stato il partito che mi ha rovinato. È lui è stato che lui, essendo proprio quasi sindacalista del partito, mi ha rovinato la mia gioia. Ma adesso no, ma noi, scusami Antonio, però adesso abbiamo un sacco di problemi. Noi abbiamo ma ti parlo anche dei problemi, per carità, anzi. Ma tu festeggerai il 25 aprile, festeggerai Antonio? Sì, certamente, perché che cazzo ne so, magari non lo vuoi festeggiare. Che vuol dire? Te l'ho detto l'altra volta. Vabbè, Antonio, dimmi che vuoi. Estrema destra mai, non esiste. Dimmi, Antonio, dimmi. Allora, mi posso stare questi qua che stanno adesso, che si dicono che sono sinistroidi, che ce n'hai uno vicino a te, sinistroide. Vuoi sapere in particolare di Zingaretti? Del signor Zingaretti? No, non lo voglio sentire, Antonio. Che non lo vuoi sentire. A me mi hanno rovinato la vita, io ne posso dire tante su questi signori, su D'Alema. Ma chi ti ha rovinato? Ma neanche ti conosce D'Alema, non ti ha neanche visto mai al mondo, non ti ha mai visto, non sa neanche chi sei il presidente Massimo D'Alema, non sa neanche chi sei. Io andavo a attaccare i manifesti con mio padre, cretino. Io sono comunista così, io sono comunista così. Ma quando io stavo al ginnasio andavo a fare i voti, io sono comunista così. Diglielo, sono comunista. Ma tu sei pazzo, io sono vero. E diglielo, cazzo. Fermola. Tu sei Renzi. Io no, io sono proprio di sinistra. Sono comunista, capito? Così, fermola. La Zanzara. Ciao Crux, qui Pietro Longo. Resistere, dicevo, da uomo liberale e ligio. Ma ieri, dopo 50 giorni, l'uomo liberale e ligio ha lasciato il posto al puttaniere. E con tecniche da Pina Russia, allungando terribilmente il percorso, sono riuscito ad andare da una loft. Finalmente non ne potevo più. Signor Pietro Longo, mamma mia, che tristezza, ragazzi. Io so, però mi deve dire che cos'è il loft, la categoria loft, forse in un loft semplicemente. Sì, appunto. Appartamento, sì, uno studio, sì, sì, no, pensavo che fosse sono andato al loft, che ha detto, sono andato con una loft. Senti un po' il passaggio? Eligio. Ma ieri, dopo 50 giorni, l'uomo liberale Eligio ha lasciato il posto al puttaniere. Allora? E con tecniche da Pina Russia, allungando terribilmente il percorso, sono riuscito ad andare da una loft. Ah, vedi? Cioè, sono riuscito ad andare da una loft, dunque non è in un loft. Da una loft significa che sarà una sua categoria, non lo so, una categoria. Allora, eravamo con Antonio da Roma, vai Antonio, vai. Allora? Ciao Giuseppe, no, una volta costato, una volta questo, non mi riesce mai a fare un complimento. Antonio, che volevi dire? Perché hai chiamato Antonio? Perché dici che t'hanno rovinato i comunisti. Sì, quello, sì, no, volevo chiarire questo, che non è stato mio padre. Che ma no, scusa, però è soggetti con la bandiera rossa, è stato il suo, sì, e lui era iscritto. Antonio, però a noi che cosa ci può interessare questa cosa? Ti devo parlare anche del fatto di, poi volevo fare un complimento a te, che vedendo in televisione mi ricordo il mio amico che aveva 31 anni, poraccio, è morto con un incidente l'avranno detto, Rino Gaetano, tu assomigli molto. Ah, ecco, sì, sì, ho capito. Assomigli molto a quel mio amico, tu. Io era amico tuo, era tuo amico. C'ha quasi la stessa età mia, sì, c'ha la stessa età. Non può dimostrare il contrario, quindi uno può dire qualunque cosa, certo. Va bene. Vabbè, senti, cioè, era anche amico mio. Una volta sto cretino, io. Ma che ne costa a me dire? No, io direi, chiama uno, diceva, sai, sono stato amico di Franklin da Ilano Roosevelt. Ma te dici niente, non c'è la prima volta che io dico una cosa del genere. Anche di Roosevelt, sono stato amico di Franklin da Delano Roosevelt, mio nonno. Mio nonno mangiava a tavola con Franklin da Delano Roosevelt. Ma qual è la parte tua? Guarda, ti dico una cosa, io sono andato pure con i trans e mi hanno detto che c'è il meglio cazzo d'Italia. Eccolo qua, di questo devi parlare, solo di questo devi parlare. Il mio cazzo è fatto a ovulo. Ma chi se ne frega? A te ti interessa questo? Perché tu sei gay. Ma che me ne frega? Ma chi c'entra? Assolutamente no, in alcun modo. In alcun modo, in alcun modo. Comunque, mio nonno era amico di Franklin da Delano Roosevelt, mio nonno. Ma guarda, potrei dimostra il contrario. Io, perché io ma dimostra il contrario. Mio no, mio no, madre, perché sei troppo stupido. Non puoi essere bello perché sei troppo stupido, te lo posso dire. No, sei troppo mio stupido. Padre, gli sto dicendo, io ho fatto la terza elementare, che posso essere, mica posso essere. Però c'ho la laurea mia di strada, vale 10 volte la tua. Sì, famoso, sicuro, la strada. Le famose Franklin lauree di strada. Mio nonno ha conosciuto Roosevelt, il tuo? Di te. Mio nonno cenava con Roosevelt. E so comunista così, diglielo che sei comunista così. Io ti sto dicendo, a te ti interessa solo sto particolare, se lo vuoi vedere, ancora un po' mi si addrizza, 18 centimetri e 15 la cappella. Vabbè, che me ne frega di quello che fa questo. Ma te frega, perché ti piace, sto spostato, guarda, che me ne frega di quello che dice sto spostato. Una volta Gottardo, una volta sei te, spostato che si è messo insieme con Duchella vicino. Ma sei un povero spostato gayfobico. Gayfobico, scusa Giuseppe, il fatto di Feltri dimmi. Ci avrà tutte le ragioni, però lui non può criticare 5 Stelle, non si può non criticare. Se può criticare la sinistra. Vabbè, Antonio, ti saluto, ti abbraccio, ciao. Mi ricordo il mio amico che aveva 31 anni, però c'è morto con un incidente d'auto. Io pensavo un amico suo, qualsiasi appunto. Rino Gaetano, vabbè. Allora ragazzi, con noi il grandissimo, dopo vari anni, uno dei più grandi attori porno, soprattutto uno dei piselli più grossi del cinema porno italiano. Penso anche adesso non abbia ridotto i suoi volumi, a meno che l'età non consumi un po'. Omar Galanti, buonasera. Buonasera Beppe, stavo ascoltando la radio qua. Te stai ammazzando. Non se vanno criticare i 5 Stelle, non se vanno. Grandissimo, come stai? Ma non è che con tutti questi squilibrati che avete intervistato fino adesso faccio anch'io parte di questa schiera, no? Spero no, amico no. Mio, ma tu non sei uno squilibrato. Tu innanzitutto hai, ripeto, come dire, sei stato uno, forse insieme a Rocco, tra i più, come dire, sontuosi, tra i più grandi rappresentanti del cinema porno italiano, perché tutti dicono Omar Galanti, c'è una roba incredibile. Ancora mantieni queste misure oppure no? Assolutamente sì, ci mancherebbe. Cioè, non è che col tempo. No, vai tranquillo, sono ancora giovane. L'età. Scusami, Omar, però io non riesco bene a capire. Tu hai detto qualche anno fa di esserti ritirato, giusto? Sì, esatto. Non hai più girato nulla negli ultimi 7 anni, niente. Qualcosina, poca roba. Hai fatto qualcosina, come mai? Sì, giusto per dare una puntatina qua e là. Ecco. Una puntatina qua, cioè una piccola, tanto per raggranellare qualcosa. Cioè, ma figuriamo. No, sfatiamo questo mito, col porno non si diventa ricchi. Ah, ok. Assolutamente. L'unico che non fa testo è Siffredi, perché vabbè, Siffredi certo. Purtroppo per fortuna sua è diventato un'icona e di conseguenza... È l'unico e di che cosa vive questo simpatico signore Omar? Cioè, guadagni più adesso con quello che fai, che non so, mi sembra che tu hai un negozio di bici, se non sbaglio. No, avevo un negozio di bici che ho chiuso per poi aprirlo in un'altra città. Stavo per aprirlo, ma purtroppo questa storia del coronavirus, del Covid, ha fermato tutto. Ecco, dimmi poi, oggi di cosa vivi? Oggi vivo con l'azienda di famiglia che... ha sempre funzionato già dai tempi che furono quando io facevi il porno? Facevo ancora porno e abbiamo un'impresa che gestisce dalle pulizie al giardinaggio, al noleggio, la vendita dei prodotti, sanificazione, consulenze, eccetera. Quindi guadagni eccetera, più adesso che nel periodo del porno o no? Assolutamente sì. Cioè col porno non si guadagna più un cazzo, diciamo, da parte rari casi no, non si guadagna. Ragazzi, chi fa il porno oggi, lo dico proprio fuori dai denti, sì, sta via tutto il mese di casa, forse a casa manderà 1.000-1.500 euro quando va bene. Uomini stai dicendo? Stai parlando? Sì, uomini, parlo di uomini, certo, le donne L'erode è un'altra cosa. Un'altra cosa. Io non l'ho capito. Le donne arrotondano molto con altre cose, diciamo. Alcune fanno anche l'escort, diciamo, spettacolo. Quasi tutte fanno anche l'escort e quasi tutte fanno spettacoli. Gli uomini, che cazzo di spettacoli devono fare? Che ambientino, che ambientino. Parenzo, vabbè, tu in realtà lo... No, dico che ambientino, dico solo che ambientino. Cosa vuoi che vi dica? Dico solo che ambientino. Posso dire che ambientino? Ma il mondo della realtà, tu sai, devi sapere, caro Omar, che questo mondo qua è un mondo che oggi non si sa quando potrà riaprire. Questo è un dramma assoluto, perché il mondo del contatto fisico, cioè alla fine il porno, certo, è quello che chissà quando riaprirà. Cioè in America ci mettiamo la mascherina sulla punta della vita. Forse è l'unica soluzione. Cosa ha detto il direttore? L'unica soluzione, ha detto, forse è mettersi la mascherina sulla punta del cazzo. Ah, il direttore così. Per te ce ne vuole una grossa, caro Omar. Ma io sono fiducioso. Vedrete che. Tu dici che muore tutto in estate. Spero. E a settembre si ricomincia pure là. Senti, ma tua moglie, se tu dicessi a tua moglie voglio ricominciare, che farebbe? Ti taglierebbe le palle? Che farebbe? Ma guarda, mia moglie, te ne dico una, te la ricordi Lorena Bobbitt? Come no, sì, erano compagne di scuola, mia moglie e lei. Quindi Lorena, cioè, tu stai dicendo, ma cosa ha scritto? Tu stai dicendo che se tu ti rimetti a fare il porno, però qualche puntatina l'hai fatta, non ti ha detto niente. Ma io, perché ho già sentito la Lorena Bobbitt? Ha fatto qualcosa di eclatante, mi pare, la signora Bobbitt. Lorena Bobbitt è quella che ha tagliato il cazzo a John Bobbitt, quello che poi ha tentato di fare l'attore porno. Ecco perché avevo sentito. Diciamo che con te sì, ci vorrebbe anche una forbice, piuttosto sarebbe anche un po' più complesso. Mamma mia, mi viene male. A tua figlia l'hai detto quello che hai fatto nel passato? Assolutamente sì, gliel'ho detto. A 15 anni adesso, no? Che ha detto? Come ha reagito? Quasi 15. Gliel'ho detto da poco, perché non volevo che fossero le male lingue a raccontare la verità. Insomma, l'ho seduta un giorno, gli ho detto: tesoro, guarda, ti devo dire la verità su chi ero e cosa facevo prima che te lo dicano gli altri. E lei onestamente mi fa: papà, a me sinceramente di quello che hai fatto in passato non me ne frega niente. L'importante è che sei un buon padre. E tu per me sei un buon padre, punto. Però l'imbarazzo, quindi... pensa all'imbarazzo, comunque. Ma sicuramente è stato più difficile per me che per lei. Poi recentemente ti credo, vedi, questo cosa vuol dire? Recentemente mi ha confessato che lei già lo sapeva prima. Comunque. Ma sì, certo, figuriamoci, ha 14 anni. Ci aspettava solo che tu dicessi qualcosa. Senti, voglio capire una cosa: queste due recenti puntate che hai fatto degli ultimi 7 anni, quanto, cioè adesso non è che ti voglio rompere i coglioni su questa cosa che tu hai tenuto un po' segreta. Io lo sapevo già che tu hai fatto delle puntate, perché conosco il regista con cui ha girato. Regista. Sì. Ma di cosa parlate? Ma mica è Monige, ma mica sono, chi è Spike Lee? Ma di che parlate? Conosco il regista. Ma di cosa siete parlando? Sì, regista, perché dà delle direttive, mettiti di lì, mettiti ma là. Ma che direttive dà? Ma di che parli? Il regista è un'altra cosa. Ha attribuito il titolo di regista, dai. Ah, ecco, buono, appunto, esatto, appunto. Conosco il regista. Io la penso come Parenzo, qua di registi. I fratelli Taviani sono dei registi. Fratelli italiani. Come con tua moglie, che tipo di rapporto sessuale hai adesso, concretamente? Cioè, i tuoi ritmi come sono cambiati da quando non c'è? Cioè, ti manca un po' quel ritmo da 7 anni o non te ne frega più un cazzo? Ma no, guarda, mi sfogo in bicicletta e con mia moglie credo di essere un po' al di sopra della media di un italiano medio, ecco, nel senso, magari lo faccio qualche volta in più, però. Cioè, voglio dire, non è pugnette? Che... Cioè, ti riesci a sopperire? Assolutamente sì, la pugnetta è un rito, cioè se non c'è la pugnetta non si vive, ragazzi. Lo so, insomma, tu sei anche in media, cioè te ne fai anche più di una al giorno, no? Almeno una al giorno te la fai o no? Non è quello, non hai questi ritmi. In primavera vi dico, a volte anche 3 o 4 al giorno, però... Insomma, dipende dal movimento, è un po' altalenante la cosa. Senti, ho sentito una tua conversazione con Rocco che è stata incredibile, devo dire la verità, cioè per cuori forti e per stomaci forti, diciamo. La tua conversazione su Instagram che abbiamo riportato per quello forti, che potevamo riportare. Dov'è il tuo luogo? C'è ancora di peggio, cioè. Beh, sì. Molto di peggio, cioè. Ma sai, uno su Instagram, sui social può andare a ruota libera, naturalmente, molto più che in questo consesso dove già si usano, come dire, parole molto esplicite. Beh, mi pare che già oltre questo, cosa si può fare oltre tutto questo? Io ti imploro. Senti, io ti chiedo per pietà. Qualcuno ha avuto paura nella tua carriera delle tue dimensioni? Cioè tua moglie per esempio non ha paura delle tue dimensioni? No, mia moglie no, figurati, mia moglie è abituata. Anzi dice sono stata fortunata, dice. No, tante in passato si sono rifiutate di girare con me, ma sai, più che altro non tanto per le dimensioni, ma più che altro per il modo di fare sesso, ecco. Perché tu hai usato molto, cioè perché sei molto brutale, diciamo. Sì, sì, sì, parecchio, abbastanza. Un po' meno di Rocco, perché sono su una via un po' più dolce, ma diciamo che sono molto più aggressive. Ecco, però questa cosa qui era una cosa da attore oppure nella tua natura? No, è nella mia natura, io sono così, tendo proprio ad ammassare la donna, diciamo. Mi piace. Ti piace un po' le grandi interviste di Giuseppe Crociati. Però, ma è la tua natura? Però, devo dire che la cosa la porto avanti solo se vedo che alla donna piace, perché se vedo che non gli piace, non gode, allora a quel punto lì mi smonta. Cioè non ti piace diciamo la dominazione, se non è consensuale. La dominazione mi piace, non mi piace la violenza. Cioè tutto quello che è contro la persona non mi piace. Cioè per cui c'è anche dal sesso a qualunque altra cosa, cioè la mia libertà finisce esattamente dove inizia la tua. Cioè, questo è un grande principio, Lorenzo. Tu dovresti chiedere a questo punto che cosa, qual è, diciamo, il partito di riferimento del dottor Galanti. Non è una domanda che ancora hai fatto. Sì, sì, no, ma infatti aspettavo che tu terminassi. Partito di riferimento politico. Cioè, qual è la? Cioè, signor Galanti, di solito Parenzo chiede per quale partito ha votato alle ultime elezioni. Allora, ho votato a cazzo per non dare il voto ai 5 Stelle, perché non trovavo le 5 quindi. Stelle. Assolutamente no, non ho votato Salvini. Cioè sei di sinistra un po', dai, sei un po' di sinistra. Allora, ti dico, Marco Rizzo è una persona che quando parla mi piace. Abbiamo capito tutto. Non ho altre domande, vostro onore. Scusa, che vuol dire? Ma pure Rizzo, dai, io sono amico di Marco, è ottimo. Ma sì, ho capito. Quando parla mi piace sentirlo parlare. Tante cose che dicono sia la Meloni che altre. Cioè, ragazzi, ma parliamoci chiaro, un politico oggi può andare di fronte ad un pubblico o al popolo e dire una cosa che bene o male non accontenti il 50% delle persone, cioè, che tu dici, vendono spesso fumo, tu dici, molti vendono fumo. Può darsi, può anche darsi. Senti, dov'è il posto dove ti piaceva scopare di più quando giravi, o dove ti piace scopare anche, cioè, in piedi per esempio, in piedi con la donna appoggiata su un cubo. In piedi con la donna appoggiata su un cubo? Sì, cioè, la donna appoggiata su un cubo alto un metro e io in piedi, lì sono il padrone del mondo. Addirittura? La posizione più comoda, sì. Ma pure tua moglie fai mette così, spesso? No, mia moglie scappa di solito. Sei un po' malato? Cioè, qualche volta ti è venuta in mente la possibilità che tu sia un po' malato di sesso come Rocco o no? Sì, hai avuto dei momenti in cui hai proprio impazzito completamente, cioè no, che uscivi da una scena e ti scopavi altre persone. Lo sono ancora, sì. E come cazzo fai? Così. E come fai? Cazzo, infatti faccio un sacco di chilometri in bicicletta, lascia stare. Ah, è per questo che hai fatto qualche puntatina ancora? Cioè, perché dovevi sfogare in qualche modo? Di sicuro non per soldi. Per cui con l'accordo di tua moglie, immagino, cioè con la... Certo, se no altrimenti poi in qualche modo... Bell'accordo, qualche modo bell'accordo. Senti, invece della Nappi che pensi? Preferirei evitare ogni commento sulla Nappi. Che è successo? Avete litigato? Sono delle faide interne. No, è una persona che non... Che non ti piace particolarmente. Che non mi piace, ecco. Ma per il modo di fare, perché avete avuto qualche episodio che non si può raccontare, perché... Vabbè. Per delle cose, un po' per tutto, via. Non mi piace come si pone. Senti, ma tra le donne, diciamo, facciamo per aree geografiche, quelle più porche in assoluto, che hai incontrato, si può fare una distinzione del genere? Oppure non c'entra, diciamo, la geografia? Est. Ma guarda, l'area geografica sicuramente, quello, un mito da sfatare, che tutti pensano che i paesi freddi si incontri una donna fredda, no, in realtà sono molto calde. Tipo? Tipo le russe. Le russe. Le porche invece, devo dirti la verità, le più porche del pianeta credo di averle collocate tra Inghilterra e Germania, lì ecco fanno qua, delle cose... Abbiamo tutto, abbiamo detto tutto. Senti, con i trans... Mai. Beh, il trans è sempre un fantasma, ecco. C'è un fantasma, però tu l'hai provato qualche volta? All'inizio della carriera. Perché c'è questa fissazione oggi? Tutto ei provò, come diceva Manzoni, no? Vi ricordate la poesia? Tutto ei provò. Senti, per concludere, sì. Omar, una cosa sola: qual è la cosa che ti piacerebbe fare che non hai fatto ancora sessualmente? No, hai fatto tutto. No, sessualmente no, ho fatto tutto. Hai fatto tutto. Non lo so. Però non te sei fatto inchiappettà. No, quello no. anche se una volta per introdurti in un posto dove non ti facevano entrare hai provato a metterlo dietro a uno, mi sembra, no? Cioè, sì, non mi lasciavano questo. Entrare in cinque intorno alla ragazza, questo. Da qualche parte dovevo trovare un buco. Allora dici, o passo così oppure stia. Pure questo. Ciao Omar, a presto, avanti tutta. Ciao ragazzi. Ciao, ciao grande, ciao, sei un grande. Resistere, resistere, resistere. Italiani! Italiani! Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8. Lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere, ridere. Mi ricordo il mio amico che aveva 31 anni, poi è morto con un incidente d'auto.